L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, grazie a Dio è lunedì. I weekend senza di voi sono una noia mortale. 23 anni e sono dipendente da Zanzara. Madonna, dovrei trovarmi una ragazza, cazzo. La Zanzara. Cioè, aspetto la pubblicità o lo stacco al parcheggio per poter andare a casa e non avere interruzioni. Grandi. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Oggi abbiamo anche il dentista, avanti, avanti, un'altra cosa, un altro problema, un'altra situazione, un altro bordello, un altro problema. Casino. Che è successo adesso? Cosa è successo? Non è successo niente, sono andato dal dentista perché il grande dentista mi ha sistemato un dente e anche la settimana prossima dovrò tornarci. Bravissimo dentista romano che tra l'altro mi ha detto di all'ottimo Cruciani, che è un bel ragazzo, bravo anche giornalisticamente, vi ascolto tutte le sere, dalle 18.30 alle 21, grande fan della... Però ha detto quel dente lì te lo devi far sbiancare, io te lo voglio dire. Sì, ho capito, me lo dicono tutti, questo maledetto dente, ma se io alla fine non grande voglio... Grande dentista di cui non dirò il nome, però bravissimo, Ma che vuoi fare anche la marchetta pure al tuo dentista? Cioè vuoi, no, vogliamo fare detto, la marchetta anche al tuo dentista, oltre che detto, alle innumerevoli persone? Ho detto, intanto non faccio marchette io perché non prendo soldi da nessuno, ma ho detto che non dirò il nome di questo eccellente dentista, sì, perché ho molto previsto, perché io ho molta paura del... dei medici, di chi mi mette le mani in bocca soprattutto, che ti trapano, ma ha fatto un'anestesia che infatti sì, forse senti che parlo come parlerebbe Mario Capanna, nel senso che ho tutta la bocca storta, mamma mia, per cui stai tornando, la realtà è che come al solito in ritardo stai tornando dal dentista, no, giusto? Io avevo chiesto all'ottimo dentista di farmi stamattina, non poteva, mi ha detto ti prego vieni alle 4, sono andato alle 4, abbiamo fatto l'interventino, abbiamo poi fatto vi siete messi a chiacchierare lì, un tè, un pasticcino, no? No? Ma quale tè? Ma che tè, un pasticcino, una cosa e l'altra. No, abbiamo... Ma non ho capito che cosa ti ha detto sul mio dente, non ho capito bene. Ha detto che siccome è giallo, tu hai un dente davanti giallo. Sì, giallo, ormai tendente quasi al nero ormai, sì, sì. Sì, che probabilmente lui ha detto viene fatto per chi fa delle porcherie, che ha rapporto. No, ma non è vero, ma non è vero per niente, sì, non c'entra così, nulla, ti assicuro, ma detto, non c'entra niente. Le persone che hanno rapporti sessuali anche ambigui, ma va benissimo. Ma non c'entra nulla, peraltro. Ma ti posso assicurare. Ma non ha detto, non l'ha detto giudicandoti, ti stima molto, peraltro. No, ma, cioè, ma non è vero, ma non è per forse lo aggiunto, ma puoi comunicare, qualcosa... puoi comunicare al tuo dentista che in realtà io ho preso. Ho detto, secondo lei, dottore, sì, non dirò il nome, dottor Scrascia, no? Ho detto, dottore, hai detto che non dici il nome, scusa. Oddio mio, scusa. È grave? Ma no, non è grave, la solita marchetta al tuo dentista, vabbè. No, ho detto, dottore, scusi, dottore, ma il collegato, dice, bravissimo, comincia a rifare questa irriverenza, mi piace. Sì, dico, ha visto quel dettaglio, sì, tipico dente, di chi, dico, di chi fa? Ah, no, dice, io sono radicale, dico, che vuol dire? No, no, cioè, io sono molto libero, beh, tipico dente. Ma guarda, ti assicuro che non è così, non c'entra niente il sesso. Io ho aggiunto, di chi fa le porcherie, no, no, no, no, questo però è chiaro che lui, che è un signore, non voleva dirlo, ma è evidente che è un dente che... No, non c'entra niente con... delle vite promiscue. No, non c'entra nulla né col cunilingus né con la promiscuità. No, no, no, non l'ha mai detto lui. No, però l'ha fatto capire. Sarebbe in grado di intervenire. Allora, la realtà è che io ho preso, tanto per chiarire le cose, poi passiamo ad altro, a cose più importanti, a quello che è successo nel fine settimana col Family Day, eccetera, eccetera. Allora, la cosa è questa. Io ho preso una botta, una testata, quando ero ragazzo, nel praticamente lontano 1900, praticamente sarà stato 1980 circa. Ma la Lega, sono stati leghisti? No, no, giocando a pallone mi hanno dato una testata. Dei Rom? No, no, no, Rom. Che i Rom. Ero addirittura in Sicilia, pensa, 1980. Ti hanno dato una testata sul dente? Una testata sul dente che mi è praticamente rientrato. E io con le mani me lo sono riportato davanti. Non è vero. E non so perché i miei genitori non sono mai intervenuti. Tu dici praticamente un abbandono di minore, praticamente. Sì, no, può darsi. Non vorrei criticare le scelte, forse hanno detto siccome è già disgraziato di per sé, non sarà ma questo. No, ma ero un ragazzino all'epoca, avevo 13 anni, 14 anni. Sono stato colpito da una testata casuale e poi ma mi sono. Ma come hai fatto a riattaccarlo, scusa? E da solo, così mi sono rimesso a posto il dente, che però all'inizio sembrava normale, dopo un po' ha cominciato a ingiallirsi e dunque a morire. Adesso ecco, perché è morto. È tecnicamente morto, sì. È tecnicamente morto. Finito, come la radio, morto. Ma no, vabbè, ma non so come la radio, no? Ma Grillo ti direbbe metti un iPad a posto del dente, non ti serve più. Ma non è. Tu dici anche i dentisti sono morti, secondo Grillo, sono no? Sono morti, devi mettere un iPad, un iPhone con tutte le app al posto del ma dente. Non è proprio così, a posto dei denti si non è che si può. Con le app. In Germania lo fanno ovunque, anche in Svezia. Ma non no, nessuno ha i denti, hanno solo delle app. Non è vero. Cioè, ci sono imitati al posto i denti, dei denti in 3G, i 3G dici, i denti bravo, in 3G. Bravo, che trasmettono pure. No, denti dai. In 3G. Bravo. No, i denti non si possono, ancora non hanno trovato il sistema in 3G per sostituirli, secondo me. Ragazzi, Super Gasparri al Family Day nel weekend. La prima cosa che vi faccio sentire del Super Gasparri, se non ci fosse, diciamo la verità, per tutti, non è inutile, uno lo piglia per il culo, anche voi, web, l'amico Zoro, ci fanno puntate intere. Se non ci fosse Gasparri, ma dove cazzo andiamo? Dove cazzo andiamo? Bisognerebbe inventarlo, crearlo di nuovo, di pacca. Beh, tutti i vari lucci che sentiremo, i programmi, le prese per il culo, internet, se non ci fosse Gasparri, cioè se non ci fossero Gasparri, Giovanardi, tutti questi, alcune cose io tra l'altro non sul tema delle coppie, però le condivido anche, ma non è quello il punto, se non ci fosse la teatralità, se non ci fosse lo spettacolo che ogni giorno ci offrono questi personaggi, dove cazzo andiamo? Cioè ormai parlano di loro anche le trasmissioni, che una volta erano le trasmissioni più serie, solo Porta a Porta un po' si salva, ma tutte le altre trasmissioni invitano questi personaggi perché sanno che fanno teatro, è una comica continua. Sentiamo Lucci alle prese con Gasparri, perché è meraviglioso, sentitelo. A Maurizio! Ah, no, ci sono proprio tutti! Oh, ma sputato! Family Day! Non è l'handicappato day, però ci sei anche te, Gasparri. Ma che battuta di merda! Noi siamo sempre stati per regolare i diritti delle persone omosessuali. Pensa alle parole, diritti delle persone. Ma se quelli se vogliono sposarti, che cazzo te ne frega? Siccome il dibattito è un po' più serio di che cazzo te ne frega, che è il tuo linguaggio. A te che te cambia, per esempio? Lo so che tu non lo capisci, però lo capirai dopo la cura che farai di fosforo. Mi fai venire alla clinica tua? No, io non ci vado perché, senti Lucci, ti pagano bene per fare sto mestiere? Cioè, una cifra! Se no chi mo fa fazza qua a parlare con te? Ci sono due momenti eccezionali. Uno un po', devo dire, di cattivo gusto di Gasparri quando dice ci sono proprio tutti, non è l'handicappato day questo qua. Non è stata proprio un'uscita bellissima da parte di signor Gasparri. No, l'handicappato day, come dire, no, Lucci fa parte degli handicappati, che non è un'espressione proprio il massimo, è il massimo. Però vabbè, non siamo noi a dirlo, perché qui alla Zanzara, per carità, non facciamo lezioni di morale a nessuno. Però certo, la cosa fondamentale è questa: ma quanto te pagano per fare sto lavoro? Ecco, esatto. Tantissimo, per intervista gente come te. stupendo. Però Gaspari se l'è presa con l'IKEA. Sai che tutte queste aziende, a me non piace la pubblicità fatta delle aziende a favore delle cause, no? Di solito non mi appassiona questa cosa, però è una forma di marketing che viene fatta spesso. Ma ormai non solo di marketing, anche perché quel prodotto lì si rivolge, no, non è solo marketing. No, beh, si rivolge a quella clientela, si cerca di fare una filosofia dietro sì, quel prodotto, sì, no? Sì, per carità. No, certo, c'è una filosofia, di solito si cerca di, siccome si sa che non si perde il voto delle famiglie in questo caso, e al massimo si acquista il gradimento da parte delle coppie gay, no? Questa è la filosofia per la quale molte aziende hanno sposato la questione delle coppie gay, eccetera, eccetera. Insomma, l'IKEA ha fatto tutte delle pubblicità. Gasparri è fuori di testa. Poi voglio fare anche una dedica a IKEA. IKEA è un'associazione che con viltà nei paesi arabi ha tolto l'immagine delle donne dai cataloghi perché si cagano sotto dei divieti musulmani. In Italia contesta il Family Day. Con gli ultimi tovagliolini che ho di IKEA in casa mi ci pulirò il sedere e dopo l'uso li rimando al proprietario di IKEA. Vergognati. Cioè praticamente si vuole... Cioè, con i fazzoletti no, che ha comprato. Ha detto, adesso io sai che sono mai d'accordo con Gasparri, però se attento. Se è vero quel che dice Gasparri, sì, che hanno fatto un'operazione paracula, diremo noi, cioè nei paesi loro, in base ai paesi dove vanno, tarano la campagna di pubblicità. Vabbè, ma no? È normale, che ti aspetti lì, che mica sono i benefattori. Cioè... Benefattori no, ma allora ha fatto bene Gasparri a mettere in evidenza l'ipocrisia, e tu sai come la penso sui diritti degli omosessuali, eccetera, quindi sono contro la piazza del femminile. Però su questo può avere ragione Gasparri, cioè aver evidenziato la paraculata di un'azienda che nei paesi arabi toglie la donna e invece qui mette il bacino tra due uomini, beh allora è un'ipocrisia. Non lo so, bisogna verificare, certamente se sono... Vero? Nel merito ha ragione, se è vero, ha ragione. Comunque per me. Lui dice: qui ci sono i fazzoletti dell'IKEA che io ho comprato, vabbè, mi ci pulisco il culo e glieli mando. Sporchi vabbè. Di merda. Questo è Gasparri. Oh, poi c'è l'annuncio della Meloni. Io devo dire che non, guarda, non uso la parola cattivo, non me ne frega niente. No, ognuno... facciamole gli auguri e basta. No, sì, ma ognuno fa gli annunci come vuole, no? Cioè, fa gli annunci come vuole. Certo, ma scusa, non il leader... hai detto che il privato è pubblico. Assolutamente, assolutamente. Certo, il leader della destra, no? Uno dei possibili leader della destra italiana, che annuncia urbi e torbi in televisione di essere incinta, potrebbe anche, cioè non è Barbara D'Urso, capito, che annuncia che sono incinta in diretta in televisione. Non trovo niente di grave. Ma, no, ma infatti non c'è niente di grave, è stata massacrata, devo dire, sul famoso web. Il web che rappresenta una parte infinitesimale dell'elettorato italiano. Quando uno cita il web, internet, Facebook, Twitter, dovete sempre dire, uno dovrebbe rispondere, sti cazzi. Questa è la risposta che bisognerebbe dare, anche quando lo citiamo noi. Anche quando lo cita, dove uno deve dire, ma chi se ne frega, cioè è una piccola parte, proprio nemmeno un'unghia, cioè la parte finale dell'unghia dell'opinione degli italiani, o comunque di quello che conta poi nell'Italia. Comunque, la Meloni che annuncia la nascita di un bambino al Family Day. Sono qui a maggior ragione da donna, perché se Dio vuole, se va bene, il prossimo anno al Family Day ci vengo da mamma, visto che ho appena scoperto di aspettare un bambino, quindi ci vengo ancora più, diciamo, convinta quest'anno, per anche la particolarità della situazione personale. Allora, è evidente che poi quando tu poi vai in televisione a fare certi annunci, non è che ti puoi aspettare, no, che la Littizzetto, per esempio, ti salvi, no? Per cui molti hanno criticato la Littizzetto, tremenda sulla Meloni, però insomma, mi pare normale. Tu vai in televisione e ci sono i comici, quelli che fanno satire, che ti rispondono in televisione o comunque che giocano su questa roba qua. Se l'avessi, no? Se l'avessi detto in un altro contesto non l'avrebbero fatto. C'è stato anche l'annuncio della Meloni, che ha detto di aspettare un meloncino. Sì. Siamo molto contenti. Fa molto ridere che l'abbia detto al Family Day per la famiglia tradizionale, perché poi lei non è sposata. È come andare ad un festival vegano e dire: ehi ragazzi, io mi sono appena mangiato una fiorentina al sangue. Il traffico è il problema. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, vi faccio ascoltare però, prima di iniziare le danze e chiamare in causa gli ascoltatori, vi faccio sentire alcune voci sì, prima danze. Di aprire le danze, sì, prima di aprire, i rubinetti. No, ecco, prima di aprire, sì, le fogne delle. No, delle, ma quale fogna? Non c'è nessuna fogna qua. Allora, vediamo oggi che telefonate, come dire, no? Allora, vi faccio ascoltare un signore che si chiama Gandolfini, che è praticamente l'ideatore di questo Family Day. Sì, certo. Ora, va benissimo, io non ho niente contro il Family Day, anzi penso che la cosa che ha detto Saviano sia una puttanata pazzesca. È un medico questo Gandolfini, però. Sì, è un medico. La cosa che ha detto Saviano, cioè che è una piazza per negare i diritti, non so che cosa ha detto, contro l'amore, nessuno è contro l'amore, è una puttanata quella che ha detto Saviano, contro l'amore, una piazza contro, che vuol dire contro l'amore? Cioè non vuol dire niente, non è che sono contro l'amore, hanno una loro idea su cosa lo Stato debba riconoscere o meno. Però attenzione, attenzione, perché questo Gandolfini è anche l'ideatore del cosiddetto Family Day, no? Signor Gandolfini. E quando uno dice che il sesso non è piacere sessuale, ma è solo per la procreazione, beh, amico mio, non so se i vari signori che erano lì riuniti, 2 milioni, mezzo milione, non so, non me ne frega nulla dei numeri, come sai, cioè, è una piattaforma comune? È una piattaforma comune questa qua? È un programma? Beh, un programma. Il sesso non è piacere sessuale. Ma chi te l'ha detto? Gandolfini, ma in che mondo vivi? Ma in che mondo vivono questi? Vivono nel mondo della... cioè, vivono sulla luna. Cioè, il sesso non è... ma guarda, sentiamo. Il sesso non è il piacere sessuale. Il sesso è la procreazione, la trasmissione della vita. È una creatura nuova, è un dono di Dio. Il sesso ci fa partecipi dell'opera creatrice di Dio. Il sesso ci fa partecipi dell'opera creatrice di Dio. Ecco, invece, come sai, nell'ebraismo, ad esempio, non è così. Quindi... ma no, ma questo è indifferente. No, nell'ebraismo c'è un obbligo proprio dell'uomo di far godere la donna. Cioè, addirittura c'è l'obbligo di far godere la donna. So che sapevo che ti sarebbe piaciuto questo. Se noi possiamo anche sentire uno dei rabbini, un mio amico rabbino, proprio su questo. Cioè, nell'ebraismo c'è l'obbligo di far godere la donna, ci stai raccontando? Sì. No, ce l'ho, che sto raccontando io perché sono impazzito. No, ma non lo so, c'è l'obbligo, c'è proprio scritto nelle carte. Mi sono preparato. Scritto nelle ma quali carte? Mica è Taormina. Nei libri sacri. Nei libri sacri. C'è scritto nella Torah, sì, c'è scritto tutto nella Torah. Ma come che mica è Taormina? E che ne so, magari nei libri sacri c'è scritto tutto. L'obbligo di far godere la donna. Le carte sono quelle di Taormina. È una specie di YouPorn in antelittera. Voglio dire di più, sto contattando per chiamarlo anche alla Zanzara, ti faccio questa sorpresa. Un rabbino che ha scritto un libro che si chiama Kosher Sex, cioè il sesso kasher. Sì, amico mio, ma già abbiamo provato a contattarlo anni fa, questo qua, il sesso kasher. No, ma con te non viene perché sai che sei un miscredente, malefico, e quindi ma se lo chiamo io... Comunque volevo dirti questo, nell'ebraismo... c'è l'obbligo di fare... viva l'ebraismo! Abbasso Gandolfini, questa è la realtà. Abbasso Gandolfini, viva l'ebraismo! Cioè, amico mio, ma non si può dire, dai, su, che il sesso... cioè, è un dovere dell'uomo, la donna può chiedere lo scioglimento del matrimonio se non si ritiene... vabbè, quello anche, in teoria, come sai, anche... sessualmente soddisfatta. Oh, qualche voce raccolta, certo, non è che rappresenta tutto il Family Day, però qualche voce è interessante. La devianza è un problema psichico, gli omosessuali, la devianza è un problema psichico. Perché esiste allora l'omosessualità? Ma questa è un po' una devianza, diciamo, l'omosessualità, se vogliamo dirla della persona. Sono problemi psichici, secondo me. Come andrebbero curati? Ma tanto avrebbero senz'altro capiti e con amore, scelta loro, ma non ci devono imporre una cosa del genere però a noi. Diventare esatto, noi omosessuali. Esatto, bravo. questa no. Allora, qualche notizia che viene da Padova, dove il giudice che ha condannato a 2 anni e 8 mesi il tabaccaio, l'abbiamo parlato la scorsa settimana, il tabaccaio di un piccolo paese in provincia di Padova che ha sparato ad un moldavo che era entrato nella sua tabaccheria insieme ad altri sfondando la vetrina con una specie di ariete, eccetera, eccetera. E, a questo giudice è stata data la scorta per alcune minacce su internet. Pazzesco. Beh, è pazzesco, sì, è pazzesco. Su internet succede di tutto, però non è la prima volta. Cioè... no, succede di tutto un corno, perché questo giudice ha emesso una sentenza in nome del popolo italiano e qualcuno sta fomentando l'odio nei confronti di... è un po' come succedeva all'epoca delle Brigate Rosse. Addirittura, tu dici, fomentano l'odio contro il giudice. Addirittura, mi viene, è come succedeva all'epoca delle Brigate Rosse, in cui si fa diventare una serpenta. Cioè, no, ma ti dico di più. Siccome queste minacce sono comparse sul blog di Salvini, questo io non lo so, non lo no, sulla pagina Facebook di Salvini. Se lo dici tu, ci credo. Deve no, lo so, è vero, è così. No, cioè, no, no, non c'è dubbio. Adesso vado a vedere. Cioè, tu dici che la Lega fomenta l'odio nei confronti di questo giudice. Non so se la Lega, dico semplicemente che non la Lega. Magari qualche elettore, qualche amico, questo non la Lega in quanto lei. Io dico che chi strumentalizza politicamente una sentenza poi rischia di trovarsi i propri, non so se elettori o simpatizzanti, io non ho strumenti per sapere. No, ma chi minaccia di morte il giudice è semplicemente un coglione, dai, su. Non c'è. Come all'epoca delle Brigate Rosse. Ma che come all'epoca delle Brigate Rosse? Poi nessuno fa niente, dai. Sono tutte cose proclamate, dette su Facebook e non succede e nulla, allora, dai. Ma perché hanno dato la scorta? Ma infatti, secondo me è una questione di prevenzione, ma non succederà mai nulla. Paolo, provincia di Milano, cioè. È un'esagerazione, lo posso dire che è un'esagerazione. Adesso non lo so che elementi hanno. Non so che elementi hanno. Cioè, mi pare strano che non ci sia la protezione per i tabaccai, invece la protezione per il giudice a cui nessuno farà nulla. Cioè, i tabaccai. No, ma è un paradosso giusto. I tabaccai, ai tabaccai si spara impunemente. E beh, un po' è così, però. I giudici cui nessuno farà nulla, perché nessuno a nessuno verrà in mente di attaccare quel giudice o di andare sotto casa a sparare. Ma chi andrà? Se dici che è una sentenza ingiusta, se costruisci una campagna politica. E che succede? Succede? Cosa succede? Dai, ma su. Io non lo so cosa succede. Ma non succede nulla. Qualche coglione sul web insulta quel giudice, lo controllano, ma la scorta al giudice mi sembra francamente. L'hai francamente. No, troppo, mi sembra, ho detto infatti, mi sembra. Paolo, provincia di Milano, dai. Sì, Cruciani, basta di sentire questo cazzaro che fai parlare tutti i giorni, non ce la facciamo più. Non è lui più. Che quanti poi siete? Contribuisce non all'odio. Ce la è lui. Più. Quanti siete? In certo. Cazzo parlate. Signor Cazzaro, mi faccia parlare. Cosa vuol dire? Può tenere qualche secondo di non dire cazzate e ci faccia parlare. No, lui dice, siccome hai parlato al siccome hai parlato al plurale, siamo eccetera. Lui sostiene che tu parli con la tosse, sei una pulce con la tosse. Lui diciamo è la moltiplicazione impersonificata dei cazzari, per cui posso parlare anche al plurale parlando di te. Ma noi chi primo che hai Paolo, però dei miserabili, chi? Paolo, dei miserabili. Se mi fai intervenire voglio dire. Ho capito Paolo, però l'hai attaccato subito. Abbi pazienza, non dici nulla. Subito perché è lui che fa fomentare l'odio. Con queste sue cazzate, perché lui difende dei giudici che non sanno quello che dicono, non sanno quello che sentenziano. No, io volevo intervenire facendo uno più uno e due di quel coglione di rumeno che ha ammazzato due persone ad Arezzo e che ha detto tanto non mi faranno niente. Ecco, Cruciani, faccio una proposta e sento anche quel cazzaro che fai parlare. Quale sarebbe la proposta? Propongo di mettere nuovamente, richiedere il passaporto a tutti i rumeni, quelli che vogliono venire in Italia, di chiudere proprio la comunità europea e rumena. Perché la maggioranza, e ha ragione Cruciani, coglione, stai zitto, fammi parlare. La maggioranza di quelli proposta, di quelli che sono in questi cazzo di campi vanno a rubare, fanno danni. Fanno danni. Vabbè, ma che cosa? La proposta è quella di fare cosa? Non ho capito. La proposta è quella di chiudere le frontiere a tutte. Chiudere le frontiere persone, a tutte le persone. Che vuol dire? Non è che lo sai prima. Non è che lo sai prima se sono delinquenti o no. Come fai a saperlo prima? Intanto quando delinquono espelli, perché questi. Vabbè, d'accordo, ma la proposta concreta qual è? Cioè, che non ho capito qual è il punto. Che cosa provi nei confronti di questo signore qua che ha investito due persone? Il punto è che non vedo più, non ci vedo più dalla rabbia quando lui si permette di dire siamo la barzelletta. Cioè, del lo vorresti mondo. Ammazzare, lui, questa è la realtà. Sì, lo vorrei che fosse preso da uno di questi coglioni dell'ISIS e bruciato. Vorrei semplicemente questo. Io dico che. Cioè, vorresti la morte, la morte di questo signore qua. Gli auguro la morte, ma quella lenta, quella tranquilla. Perché che ti fa andare in bestia, vedere. Che cosa? Ti fa andare in matti il fatto che dice tanto non merda, mi succede nulla. Tanto non mi succede nulla. Sì, sono anche questi giudici che contribuiscono a questo con queste sentenze vergognose. Che il cazzaro che fai parlare tutti i giorni. Vabbè, difende. Lui difende una sentenza emessa da un giudice. Uno poi può. Da un giudice in nome del popolo di che? E dunque, che faresti loro. A suo giudice, te, quello là di Padova? Che cosa faresti a questo giudice? Non lo penso, ma forse è meglio che non lo dico, Cruciani. Perché non so, perché non hai il coraggio, perché non hai il coraggio di dirlo, perché non hai il coraggio. Pensi che dovrebbe morire, magari pensi tutto il male possibile, ma non hai il coraggio, non hai il coraggio, non hai le palle, non hai le palle. te lo dico. No, no, dimmelo dopo, dimmelo dopo, dimmelo, che adesso stiamo finendo, c'è il giornale radio, ciao. Cruciani, come mi stai sui coglioni? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. Lungo viaggio in macchina verso il nord Europa, all'altezza di Lugano Sud mi si para davanti invitante, l'insegna del bar oceano, ma io stavo ascoltando il podcast della Zanzara e ho proseguito oltre, perché non si interrompe un'emozione, la Zanzara meglio delle zoccole. Davide, non so se tu ieri sera tra un film con i bambini o un invito a cena di non so quale intellettuale hai avuto modo di vedere il gesto dell'ombrello di Salvini al mancato pareggio dell'Inter, cioè al calcio di rigore fallito, hai visto o no? Non l'ho visto perché ero in diretta fuori. Ah già, è vero, sì, hai ragione, scusami. A farmi massacrare dall'Inter. Io non ho capito se Salvini lo rivendica quel gesto oppure se ne è pentito. Io sono tifoso, così come non condanno adesso se Mancini fa il dito medio, se quell'altro insulta quell'altro. C'è il dito medio di Mancini, va bene. Ma sì, dovrei essere offeso io perché sono milanista, ma in campo ci sta anche qualche volgarità. Poi uno chiede scusa se qualcuno si offende, però io mi ricordo uno dei più grandi interisti di tutti i tempi, e sì, oltre che uno dei più grandi alpini, Peppino Prisco, sì, cosa sì faceva e cosa diceva. Ragazzi, lo sport è anche gioia, è anche sfotò, è anche sangue. Poi al 90esimo baci, abbracci. Gli interisti non l'hanno presa bene, però già tu... ma guarda, oggi ho chiacchierato con una marea di interisti che ovviamente orecchie basse dopo il derby. Io mi sono impegnato ad autorifarmelo se mai sbaglieremo un rigore durante un derby, ma almeno in quei 90 minuti, se non c'è violenza, ovviamente, perché altro paio di maniche sono le bastonate, le sassate, le bombe carta, però no, le spinacchiate ci stanno. E poi però, se non c'è rivalità fra Milan e Inter, no, d'accordo, è la cosa più educata che ha fatto Salvini da quando lo conosco, questo. Vabbè, adesso la cosa più educata, adesso poi se... 1-0, rigore, pigli il palo, poi segni il 2-0, non ce l'hai fatta, era liberatorio, liberatorio. Entusiasmo. A chi era rivolto là? A chi era rivolto in generale? In generale alle ingiustizie del mondo. Ma come le ingiustizie del mondo? Ai tifosi dell'Inter, era per i tifosi dell'Inter. Ovvio ed evidente, a chi doveva essere rivolta? La mia mamma. Senti, ma con Berlusconi poi avete definito questa roba, questo tormentone pazzesco, di cui non può non frega niente. Ci siamo, ci sono i nomi, ci sono i progetti. Facciamo i nomi, avanti, Milano. Ovviamente non le dico alla Zanzara. Ma no, vabbè, ma che vuol dire? Dai, no, cioè, Parisi a Milano, che avete candidato Parisi a Milano? Parisi è a me piace, ma, poi vabbè, non voglio dire che debba piacere a tutti gli altri, un manager fatto... Per cui sarà Parisi? A me piace, noi non pretendo di imporre tutto a tutti, amministrato a Milano, amministrato a Palazzo Chigi, è un imprenditore, Parisi, a me piace. Vabbè. Ma che, ma ragazzi, ma non lo conosce nessuno. Cioè, non, se, no, entra, se entra in un nostro bar, se entra in un bar, la gente dice, c'è la gente pronto. Perché il sindaco di Milano va eletto in base alla notorietà che hai. E allora a quel punto. Beh, un po' sì, un po' sì, no, un po' sì. Candidiamo Boateng, candidiamo. Vabbè, ma che c'entra? Dai, su. No, ma Parisi è un buon nome. Sono stati sì, per perdere, sì, è bello, per perdere, sì, no, ottimo. A Milano si vince, guarda, posto, segnatelo. Così come ero sicuro di vincere il derby di ieri sera. A Milano si vince, altrove non lo so, ma a Milano si vince. Ma a Roma chi c'è allora? La Meloni non si può perché pare che sia incinta, no? Beh, che pare, buon per lei, fortunatamente, prima viene il bimbo. Beh, magari non può impegnarsi in campagna elettorale. La campagna elettorale in gravidanza non penso che sia il massimo per della quello, vita. Mica perché una donna in gravidanza non può essere candidato, per carità. Ma, no, però fare il comizio all'ottavo mese, diciamo che magari il bimbo ha delle altre esigenze. Vabbè, comunque, andiamo a una cosa di cronaca che è più interessante del Toto Nomi, che non ce ne frega niente. Bravo. La questione del tabaccaio di Padova. Il tabaccaio di Padova. Allora, una follia totale, almeno secondo me. Per Parenzo no, ma già l'abbiamo detto. Ma no, ma scusa, adesso per chi non ha seguito, un tabaccaio che viene rapinato, aggredito, si difende a pochi centimetri, purtroppo ammazza, purtroppo devo dire purtroppo, perché bisogna dire così. Beh, ammazza, non lo dire per forza, se non lo pensi non lo dire, non no, dirlo, beh, non purtroppo lo penso, però lo dico, sennò poi Parenzo ecco che e su questa evidente legittima difesa perfino l'accusatore, perfino il PM aveva chiesto l'assoluzione e il giudice l'ha condannato a 2 anni e 2 mesi e 300.000 euro di risarcimento alla famiglia. Sì. Altro che 300.000 euro darei alla famiglia, una pacca sulla spalla e arrivederci, state bene. Comunque, la questione è un'altra. Il magistrato è stato minacciato. Alcune minacce vengono addirittura da alcuni post pubblicati sul tuo profilo Facebook. Ed è stato... Sul mio profilo Facebook ieri hanno scritto circa 15.000 persone. Ora o Parenzo mi dà una mano a leggere 15.000 commenti. No, ma non dico che è colpa tua, non dico che è colpa tua, dico semplicemente dico che secondo te un po' se l'è cercata il magistrato, cioè come che ne pensi di questo? No, la minaccia non è mai la risposta. Però alcuni magistrati fanno male il loro lavoro. Ma scusa, hanno dato la scorta però a questa qua, Ti sembra esagerato la scorta per le minacce su internet? Beh, guarda, se dovessero darle scorte in base alle minacce su internet, visto che su Facebook la gente si sente al di sopra di ogni diritto, che faccia il suo lavoro, se ha la coscienza pulita, buon per lei. Secondo me ha emesso una sentenza totalmente sbagliata, ma non penso che nessuno la sfiorerà. Vogliamo parlare del rumeno ubriaco che guidava la minicar e ha ammazzato una mamma e una bimba che passeggiavano sul marciapiede ad Arezzo? Quello non dovrebbe essere in giro, ma quello si farà qualche settimana di galera. Io lo metterei ai lavori forzati, quello fra qualche settimana è fuori. Vabbè, ho capito, quello può succedere anche a uno che non è rumeno, però. No, ma succede, ma guarda, ci sono tanti italiani delinquenti, appunto, ma non è un buon motivo per riempirci dei delinquenti del resto del mondo. A proposito, se uno che stupra, non è uno che è bello che ha stuprato in italiano, io glielo taglierei all'italiano o lo taglierei a chiunque altro. Allora, dobbiamo chiudere. Hai letto che non è reato dire a Salvini che è Salvini? Scrive il foglio, cioè non è reato dire a Salvini che non ha mai lavorato? Cioè, Salvini ha querelato il Fatto Quotidiano, credo, e il giudice ha detto che non è reato. Ha fatto male a querelare perché in realtà lui con orgoglio doveva difendere il fatto che fare il politico di professione, cosa che lui giustamente ha fatto per tutta la sua vita e speriamo che sia lunghissima fino ai 90 anni, deve rivendicare il fatto che il suo è un lavoro. Cioè non è che non ha mai lavorato. Esattamente quello che ho fatto, aggiungendo anche gli altri lavori. Io non posso dire che, ad esempio, se io dicessi che Parenzo non ha mai fatto una mazza nella vita, poi è soggettivo, fare il giornalista è un lavoro, non è un lavoro, però Parenzo oggi sta lavorando, Cruciani oggi sta lavorando. Ma perché hai querelato? Scusa, quelli hanno semplicemente detto che tu non hai mai fatto una professione. Dice che sei assenteista quando ho il 90% delle presenze a Strasburgo ed è documentato. Vabbè, quelli però non ho mai fatto un cazzo nella vita. Contesta quello che faccio, non ti piace come ho fatto il parlamentare, le leggi che ho fatto, quello che faccio a Strasburgo. Vabbè, ciao, presto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, andiamo dopo Salvini a Emiliano, provincia di Lucca. Intanto Parenzo è finalmente arrivato, nel frattempo è arrivato, eh? No, non c'è ancora, entrando, non è ancora arrivato. Sto entrando, dai, in questo cazzo, momento sbrigati. Negli studi della Radio 24. Mamma, ma un'ora dopo, ma non è possibile ogni volta. Ma chi se ne frega? Anestesia. Non mi rompere i coglioni. Ho male. Mandami il certificato medico. Mandami il certificato. No, puoi chiamare il dottore di cui non ripeterò il nome e chiedere se è vero che sono andato da lui e verificare l'appuntamento. Ma c'è ancora l'anestesia? Sei ancora tutto anestetizzato? Sì, mi hanno traparato il dente. Come farlo senza anestesia, per farti un favore a te? No? Il dottore me l'ha anche detto. Dice: so che lei è alla radio alle 18:30. Dico: guarda, sì, devo essere lì proprio alle 18:30 puntuale. Dice: vabbè, avrà un po' di anestesia. Vuole che glielo faccia senza, così non ha niente. Dico: ma che è matto? Ah, voleva fare bellissimo, senza anestesia. Potevi fare senza anestesia. Scusa, in nome della zanzara, potevi farlo senza anestesia. No, mi ha detto: guarda, te la faccio lieve, così tra un po' ti va via. Effettivamente è veramente bravo. Guarda, devi. Ma sei veramente un lecca. Devi farti curare quel dente da quel. Io poi ho molta paura dei dentisti in genere, perché. Dillo a me. Come dell'andrologo, però. Vabbè, dai, dove andiamo? Donato da Bologna, dai. Chi eravamo? No, Emiliano dalla provincia di Lucca, sì. Emiliano, provincia di Lucca. Vai, dimmi, Emiliano. Buonasera, ciao Giuseppe. Dai, dimmi Emiliano, dimmi. No. Sì, volevo. Allora, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Salvini e mi piaceva dirlo, l'ho ascoltato, è stato molto interessante secondo me. Vabbè, poi? A parte l'Inter. E poi il massimo, disapprovo al massimo quello che ha detto Parenzo finora, per quel suo bonismo estremo. Oh, sei arrivato finalmente. Chi è che parla? Chi è che parla? Emiliano Parenzo, buonasera. In maniera spero educata, però volevo porre appunto il mio disappunto sul bonismo. Tuo disappunto. Esagerato. Non si usa mai questa parola, zanzare, il mio disappunto. Sì, sì, sì, sì. Perché anche le trasmissioni passate, quando si parla dei rumeni, delle comunitari, eccetera, eccetera. È un ascoltatore, Emiliano, dalla provincia di Lucca. Come chi è? Chi se ne frega? Il disappunto, chi se ne frega? Il disappunto se lo tenga, chi se ne frega? È una trasmissione dove si può esprimere anche il proprio parere. Sì, ma qual è il punto? Senza dubbio, ma va bene. Disappunto per che cosa, Emiliano? Non l'abbiamo capito ancora. Disappunto per quello che dice il Parenzo. Vabbè, che cosa in particolare? Dice tanto. Il bonismo in generale, anche sulla sentenza del giudice del fatto di Padova che è successo ora. Sì. E quando in altre trasmissioni. Il mio è buonismo. Minacciano di morte il giudice e il mio è buonismo. Ma guarda che la gente è scema proprio. Fammi parlare anche me per cortesia. Cioè, si ribaltano le cose. Parenzo, quando dice Parenzo che giustamente anche gli extracomunitari rumeni hanno bisogno di alberghi dove c'è internet e telefonini. Ecco, io le vorrei fare una domanda precisa. Quante persone ha ospitato in casa sua Parenzo? Nessuna. Se li darebbe. Ma cosa c'entra? Nessuna. Ma come, che cosa c'entra? Ma che cosa c'entra? Quello è un atto di solidarietà volontario. Solidarietà. Altro è quello che lo Stato deve fare, perché uno paga le tasse. Oh, beh, ma oddio, che non questi non le pagano le tasse. Ecco, le paghiamo noi. Lo allora Stato dico, sociale. Ma io pago il tuo medico curante, visto che sei un malato di mente. Sì, io indirettamente. Ma io perché devo pagare il tuo urologo, scusa? Ma io perché devo pagare l'urologo di Emiliano? Tutta questa gente qui. Ma perché un mascolto? Guarda che incredibile. Perché non mi fai parlare? Allora, ci sono delle cose che pago anch'io, che fai tu. Quante persone hai ospitato? È una domanda. Ma nessuna, ma che c'entra? Come che c'entra? Lui dice che dovresti dimostrare di essere buono ospitando qualcuno a casa. Ma io non sono buono. Io credo che uno Stato serio non è responsabilità dei singoli, la carità che faccio io e i soldi che posso dare a una fondazione o alla Croce Rossa Internazionale. Quel che faccio io nel mio privato non vengo a dirlo alla fermo radio. Lì, se ho fatto... Fermo lì, fermo. No, dovresti. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. La zanzara. Luciani, vorrei farlo io il tuo mestiere, fai 10 minuti di trasmissione, 20 minuti tra pubblicità, GR, traffico, cazzi e mazzi, ci tua. Avete rotto i coglioni, avete fatto solo un quarto d'ora di trasmissione, poi pubblicità e telegiornale, basta, basta, basta! vai con Sgarbi sugli omosessuali, vai Parenzo, anche tu con Sgarbi ieri sera, eh? Vai, vai, vai, sì, bravo, vai, sì, vai, vai. E quello che una volta ho detto, quando Grillini, anni ormai sembra 20 anni fa, voleva il matrimonio dicendomi: ma quando poi lui è malato, chi lo assiste? E quando è all'ospedale, chi va con lui? E quando è al cimitero, dico: ma che, ti toccavo le palle, dico, il matrimonio, i gay sarebbero soltanto la morte, la malattia. Il matrimonio, ho detto a Grillini, è un'inculata per tutti. Vabbè, dice, questo... e per questo che la vogliamo. Il professor Grillini gli ha risposto: è per questo che la vogliamo, l'inculata. Senti, senti di Sgarbi che dice ancora contro la famiglia, la paternità. Ma senti, a me lo sei, c'ero io. Senti, lo so, ho capito, senti, magari te lo sei scordato, che ne so, io mi scordo tutto quello che faccio. C'eri tu, certo che c'eri. Ma hai detto, senti come fosse una novità. Senti, senti, magari te lo sei dimenticato, è passata qualche ora. Mamma dai. Mia, l'anestesia ancora fa male. Io i figli li ho fatti con tre donne diverse, nessuna di tre ho sposato, ma a tutte e tre ho detto che ero felice che fossero incinte loro, essendo i figli loro, ed essendo io contro la paternità e contro la famiglia. Però nel momento in cui il figlio nasce non puoi dire abortisci, sarebbe troppo violento. E poi perché rinunciare a un figlio di Sgarbi? Casomai lo puoi vendere. E naturalmente viene venduto il miglior offerente, che sono io. Allora, io adesso non me la voglio prendere sempre con Napoli, per carità, i quartieri brutti esistono ovunque, i quartieri off limits esistono ovunque, per carità, non è che esiste che solamente... Lo dicevo io poi tempo fa, venivo massacrato, no, per questo, quando esistono dicevo questa... ovunque, nel senso constatavo che... constatavo questa roba. No, voglio dire che non esiste, le varie scampie, cioè di Scampia ce ne sono, non dico in tutta Bravo. Italia... però in diverse città. Certo, fa un po' impressione che ci siano degli autobus comunali che decidono di non arrivare in certi posti perché vengono presi a sassate. Questo sì, veramente a sassate, no? Come diceva Capanna. Vengono presi a sassate gli autisti, e non solo a sassate, da parte di ragazzini, probabilmente, che si divertono a prendere appunto a sassate gli autobus quando transitano per Rom, Scampia. Ragazzini del degrado, ragazzini, di quelle zone, ragazzini di quei territori perduti della Repubblica. Ma non hanno, i Rom non hanno bisogno di prendere a sassate gli autobus, perché gli autobus li servono per arrivare nel campo Rom. Spesso l'illegalità, vedi come c'è lì illegalità. Al limite vanno gratis, non pagano, no, anzi sicuramente questo, non pagano il biglietto. Te lo dicevo perché lì c'è un terreno di illegalità diffusa, per questo te lo dicevo. Un autista di questi autobus di Napoli. Comunque che invito... un momento, ho sentito la parola sassate. No, dico bene. No, Capanna. Dico bene o chiudiamo, no? Sassate. Chiudiamo il collegamento con Capanna. È un'ottima iniziativa questa, voglio solo dire, non ho capito dove, ma quando ci sono sassate, ma non va bene, sembra le sassate, un'ottima iniziativa. Ma contro gli autobus, contro che cosa? Non ho sentito. Gli autisti, lavoratori di Napoli. Lavoratori di Napoli, no, da parte sassate di sassate vanno fatte contro la Confindustria, diciamolo chiaramente, che no, in questo caso non c'entra niente, sono giovani ragazzini di Scampia che prendono a sassate gli autobus che arrivano, no, male, è malissimo. È comunque una forma di rivolta che fa capire quanto sia viva questa società. Ma molto bene, è vero. Ma non è viva solo nei criminali. Negli anni 60 volevo dirti questo, capito, negli anni 60 prega, noi prendevamo a sassate chiunque fosse il potere costituito, ma in questo caso no, se hai su un autobus o un bidello che peraltro ti obbliga a timbrare il cartello, a timbrare il biglietto, impone obbliga, in modo autoritario e prepolitico, e quindi benissimo anche le sassate, va un attimo incanalata questa protesta contro la Confindustria, questa sarebbe energie sprecate contro i tram, comunque è un buon inizio, grazie. Sentiamo un autista degli autobus di Napoli, dai. Sentiamo. Cazzo di Capanna. Qualche volta è capitato che hanno anche sparato con una fucilata d'aria compressa, lanciando anche bulloni, di tutto, bottiglie, e non che il liquido contenuto nei palloncini. Molte volte è capitato che gli autisti sono stati bagnati da liquido indefinito, probabilmente urina. Poi dice che lo fanno per far vedere chi è il più forte. Ma è più forte, sono semplicemente dei coglioni. Mi sembra un po' esagerata la deviazione del percorso per non entrare a Scampia, per non entrare nel cuore di Scampia, diciamo, eh. Io andrei con l'esercito, cioè darei la scorta dell'esercito. No, la scorta è questi autobus che facciano. Mi sembra un po' una resa, devo dire la verità. Cioè, cambiare il percorso per quattro coglioni. Una resa dello Stato, bravo, che tirano i sassi, mi sembra francamente esagerato. Al limite, fino a quando questi non la smettono, farei scortare l'autobus dall'esercito. Ma pure l'esercito se la fa sotto, entra a Scampia, secondo me. Nicola da Padova, vai, Nicola. Buonasera Cruciani. Dimmi. Niente, io volevo solo aggiungermi alla coda di polemiche che sono state, ci sono state in questi giorni per la sentenza del, del giudice qui di Padova, che è stata una sentenza veramente vergognosa, direi. No, ma io anch'io la definisco più che altro inspiegabile, cioè non riesco a capire. Comunque, probabilmente era troppo vicino il colpo, pare che quello avesse le mani alzate nel momento in cui ha sparato il tabaccaio. Erano quattro che hanno sfondato la vetrina, dai, su. Io non riesco a capire. Forse la chiave sarebbe incredibile il fatto che, siccome si è permesso l'imputato, cioè il tabaccaio, di parlare male della giustizia in aula, forse di inveire, non lo sappiamo, contro la mala giustizia, i tempi, le accuse che gli sono state gli sono state rivolte, il tempo perso, lo stress. Siccome si è permesso di parlare male dei giudici, un giudice l'ha condannato. Io non voglio pensare male, per carità, di questo giudice. Non voglio dire niente, perché sennò mi accusano di alimentare la protesta contro il giudice, l'odio contro il giudice, che già è sotto scorta per alcuni cretini che l'hanno minacciata di morte. Sì, ma infatti io, Cruciani, qui devo dire che sono d'accordo completamente con lei. È una misura esagerata, perché io non credo che nessuno la scorta, farà nulla, dici, nei confronti. Non lo so, sì, questo l'ha detto Salvini prima, che è esagerato. Io devo dire la verità. Mi sembra assurdo, pazzesco, per le minacce su Facebook. Pazzesco dire una cosa simile. Cosa pazzesco dire una cosa simile? Pazzesco dire che sono esagerate le scorte a un magistrato. Negli anni 70 ma non puoi paragonare i magistrati, le brigate rosse, finivano dai, sotto su. I colpi delle brigate rosse, perché finivano nel mirino, ma perché facevano inchieste scomode. Ma non c'entra una mazza. Ma stai paragonando quattro coglioni su Facebook alle brigate rosse, dai. Intanto non so se tu hai fatto delle indagini. Allora, no, ma io leggo un tizio che si chiama Paolo, che dice: bisognerebbe sparare anche al giudice. Auguro a questo giudice che gli entrano in casa i ladri e lo minaccino come hanno fatto col tabaccaio. Dopo vediamo cosa fa. Bisognerebbe sparare anche al giudice, sostiene questo tizio che si chiama Paolo. Adesso io non so se sia lui uno di quelli indiziati, indagati per le minacce al giudice, cui poi hanno dato la scorta. Però che questo tizio con nome e cognome possa rappresentare un pericolo per questo giudice, francamente, magari sono arrivate altre minacce, per carità, non lo so, questo infatti non lo so. Però, amico mio, la scorta al giudice, mentre moltissimi tabaccai sono costretti... tu hai visto le immagini di quel tabaccaio cinese, peraltro, di Torino? La città tabaccaio. Massacrato. C'è un tabaccaio cinese di Torino, massacrato alle 5 di mattina, quando apriva il locale, da due c'entra? Balordi che peraltro erano qui come rifugiati politici. Ma d'accordo, uno ma dei due era qui come rifugiato ma politico. Ma cosa c'entra? No, ma per dire, cioè... la scorta ai magistrati e questi qua sono indifesi. Questa adesso ovviamente sembra una cosa super populista, no? I tabaccai indifesi e la scorta al giudice. Togli sembra. Dai, su, Giovanni da Roma, anzi no, Donato da Roma, vai. Pronto, buonasera. Senti, allora io volevo un attimo, diciamo, approfondire il discorso che ha fatto prima Parenzo riguardo al sesso nell'ebraismo. Allora, quello che dice Parenzo mi fa piacere, insomma, che ha rivelato un aspetto, diciamo, anche piacevole. Però nell'ebraismo la dispersione del seme maschile è ritenuto un peccato. Però adesso, Donato, io non vorrei aprire qui alle 19.43 in mezzo a una discussione sulla difesa personale, sull'ebraismo e il sesso. No, io ho dato semplicemente un'informazione di servizio, adesso, francamente, dicendo che, a differenza del cattolicesimo, l'ebraismo prevede come norma il fatto il godimento della dia soddisfazione, che la donna deve essere soddisfatta perché dall'uomo. Si parlava di quello, perché poi la dispersione del seme c'è anche nell'ebraismo, credo, sì, no? Non c'è dubbio, però ci sono, cioè, tante la masturbazione deroghe. Non è ammesso o no nell'ebraismo la masturbazione in senso tecnico, letterale? Ci sono alcuni casi in cui se può fa, cioè quando ad esempio ma faremo una puntata proprio con questo, ma lo fanno tutti anche tra i cattolici, non solo qualche pazzo tipo Gandolfini non si era mai fatto una sega in vita sua, lo dico questo con tutto il rispetto di Gandolfini, senza essere querelato da Gandolfini, ecco, appunto. Anche lo stesso Gandolfini che dice che il sesso, no, è solo... io non credo, si non sarà entro fatto nelle una volta, signor Gandolfini. Gandolfini, organizzatore del Family Day, si sarà masturbato almeno una volta, sì, avrà nella sua vita, credo che si sarà masturbato, non lo so, neanche sarà un interessa. Peccatore da questo punto di vista, non ha fatto sesso solo per procreare, signor Gandolfini, beh, non ti interessa, dovrebbe essere ti dovrebbe interessare invece quello uno che fa dice Gandolfini sotto uno le sue che coperte dice sul palco del Family Day, no Gandolfini. Io entro nel merito di quel sul che dice non mi interessa quel che fa sotto le sue coperte, ma come no, uno deve essere coerente, però mi scusami interessa. No, ho capito, no, dice non, allora non deve essere coerente, secondo te non deve essere coerente, no vabbè, ma uno può anche scusa, uno, perché dopo si autoassolvono tutti dicendo noi siamo cattolici peccatori, peccatori dice. dici. Loro si autoassolvono così. Quindi a me non interessa. Beh, dovrebbe interessarti, però. Dovrebbe interessarti. Ma no, perché comunque vogliono. No, perché. Ma uno che dice che il sesso si fa solamente per procreare, evidentemente in vita sua ha seguito questo precetto. Oppure si dichiara un peccatore. Entra nella grande famiglia dei peccatori. Come tutti i divorziati, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, una volta. No, ma una curiosità, signor Gandolfini, lei una volta si sarà masturbato in vita sua? Due, tre volte? Cioè, anche lei è. E la possiamo annoverare nella grande famiglia dei peccatori, sì o no? Stefano da Milano, dai Stefano. Sì, ciao Stefano, ciao Cruciano, ciao Parenzo, ciao. Dimmi, dimmi. Niente, volevo soltanto dirti che questa sera però non mi sei piaciuto perché hai peccato un po' di ipocrisia, perché io mi ricordo la trasmissione in cui tu hai dato il nome della giudice. Sì, capito? Sì, come no, Beatrice bene, Bergamano, ma no, io è un'informazione, ma è scritto, è un'informazione, Stefano, è su tutti i giornali, era su tutti i siti il nome del giudice, amico mio. Ma come no? Era su tutti i siti, amico mio. Ma certo, dove. Ma chi. Queste persone che hanno fatto questa cosa, questa giudice, che vogliono minacciare di moto, qua. Tutti gli ascoltatori che scrivono sul blog di Salvini, tutto lì il cerchio. Perché sicuramente saranno quattro cani che non c'entrano niente. Però purtroppo soltanto dare adito a queste persone. Dare adito? È scorretto. Non questo, ma non me lo dici tu se è scorretto o no? Come no? La mia opinione è questa. Ma la tua opinione è scorretta cosa? Ti ripeto, il nome di quel giudice che si chiama, e lo ripeto, Beatrice Bergamasco. Fai male invece. Fai male perché. Ma faccio perché male a fare cosa? Problemi, non ho capito. Faccio male. Altri problemi che ce ne sono già tanti. Ma io, ma è un'informazione, ma non ho capito. Se lei non ha nulla. Non è necessario dare sempre. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma era su tutti i giornali. Punto, avanti e indietro, sei contento, sei felice. Comunque è interessante questo. L'ascoltatore ha ragione. Ma chi ha ragione? Ha cioè, torto Marco. Ma è presente ovunque. Ti spiego la contraddizione qual è. Tu sei il primo, tu e Salvini e altri. Siete i primi, ad esempio, adesso no, te lo spiego. Il nome del giudice Beatrice Bergamasco era perché? Su tutti i siti, dunque te io spiego, l'ho dato, scusami, ma non ho detto, insultatela Cruciani. Ti spiego qual è la contraddizione. Ma dov'è la caro Ayatollah? Allora, la questione è questa: voi, tu, Salvini e altri, siete contrari, ad esempio, che a mi stai che accomunando gente che sì, non in questo caso niente. Su questo argomento, su questa vicenda, avete questo punto in comune. Assolutamente. Ecco, appunto, quindi tu e Salvini e altri siete contrari al fatto che, ad esempio, i poliziotti abbiano una identificazione nella loro divisa, contrario, sì. Nell'esercizio delle loro assolutamente funzioni. Contrario. E ora siete i primi a fare le liste di proscrizione. Io non faccio nessuna lista, vedi, stai sbagliando. Che in nome dello Stato ha fatto una sentenza. Stai sbagliando. Allora, se date il nome del magistrato, dovete volere anche il numero di targa sulla divisa dei poliziotti, perché sono funzionari dello Stato e agiscono entrambi in nome dello Stato. Hai sbagliato quindi, tutto, perché io non ho fatto il nome nessuna del magistrato. Bene, allora ci deve essere il nome, non il nome, ma il numero di matricola diverse. Sulla divisa dei poliziotti è la stessa cosa, è la stessa cosa, ma è la stessa va? Cosa, è la stessa cosa, è la stessa cosa, è la stessa cosa, è la stessa cosa, è la stessa cosa, divisa, nome magistrato, numero di poliziotti, magistrato. Ma sei completamente pazzo. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Chi è in macchina penserà che sia rotta la radio, no? Perché chi è in macchina deve pensare che sia rotta la radio. Il nome del magistrato è un'informazione che era presente su tutti i giornali, non dire cazzate. Anche il numero di matricola dei poliziotti che scendono in piazza. No, sei completamente pazzo. È uguale. Allora, il Papa ha risposto, da quello che sembra, a un signore, quello che userò è un nome di fantasia, Diego Esposito, da Napoli, che è stato vittima a 13 anni di una violenza sessuale da parte di un prete presso la diocesi di Napoli. Ha mandato una lettera al Papa perché sta facendo, non so se lo ha interrotto, lo sciopero della fame. Il Papa, nella lettera di risposta, non so con chi ha parlato il Papa, adesso ce lo chiarirà, con l'avvocato oppure con lo stesso Diego Esposito, che è un nome di fantasia, ripeto. Dunque non so se ha interrotto questo sciopero della fame, perché addirittura dopo tanti anni, essendo le cose andate in prescrizione, la diocesi di Napoli vorrebbe dare come risarcimento 250 euro a questo signore che ha avuto dei problemi pazzeschi per le violenze subite da parte di un prete presso la diocesi di Napoli, il quale prete però è stato in attività per tutti questi anni. Una storia ingarbugliatissima ma anche significativa. Diego Esposito, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao Diego. Grazie di avermi dato voce. Allora, scusami Diego, hai parlato col Papa? No, il Papa ha chiamato il tuo avvocato, stai facendo ancora lo sciopero della fame, dacci subito queste informazioni. Sì, le spiego, no, ha chiamato il mio avvocato. Cioè il Papa ha chiamato? Sì, ha chiamato, no, precisamente ha chiamato il segretario del Papa, a nome del Papa, il segretario Bucci, okay, Stato. Il segretario Becciu, Giovanni Angelo Becciu, sottosegretario per gli affari cose. Vabbè, ha chiamato questo cardinale, questo ha monsignore. Sì, ha chiamato a nome però del Santo Padre di dire di fermarmi di fare questo sciopero di fame. Ma tu stai continuando a fare questo sciopero della fame? No, da quando lui ha chiesto, io ho accettato subito, ho sospeso. Hai sospeso, subito, hai calato le braghe subito così. Vabbè, bene. Ma assolutamente sì, per il Santo Padre, però anche non dovevano, secondo il mio parere, non dovevano arrivare a Santo Padre. Bastava la curia, doveva intervenire, perché io le prime richieste l'ho fatta alla curia e per 12 giorni loro avevano quasi tutti i giorni le mie mail, anche le ricevute, loro non se ne sono proprio importati di niente. Ho dovuto scomodare il Santo Padre per smettere questo sciopero della fame. Questo è una cosa orrenda, è una cosa orrenda. Però Diego, scusami un attimo, tu oggi hai quanti anni? Adesso ne ho 40. Hai 40 anni. Queste violenze per quanti anni si sono continuate? Allora, dai 13, dall'età di quando la terza media, perché io sono stato adescato alla scuola media a Napoli, dove lui è il mio professore di religione. Come si chiama sto prete? Don Silverio Mura. Ma è ancora in attività, è ancora, gira ancora libero per Napoli? Allora, perché non è in galera questo signore qua? Ma assolutamente no. Noi, grazie alla rete Abuso, che sono molto attivo in questo... Vabbè, grazie a tutte le associazioni che avete fatto. Sì. Allora, niente, sappiamo che lui è ancora in attivo come prete, e fino al 2014 insegnava, 2014-2015 insegnava presso una scuola vicino dove... Ma tu quando lo hai denunciato? Il 2010 presso i Carabinieri e presso la Curia di Napoli, che praticamente la prima denuncia ufficiale è stata fatta ai Carabinieri nel 2010. Cioè, ma queste violenze che tu hai subito, che sono violenze proprio sessuali, no? Tu, sì, questo prete ha abusato di te in maniera completa, lo possiamo dire? Completa al 100%. Lui, cioè, hai avuto rapporti completi con questo prete? Cioè ti ha obbligato ad avere rapporti completi? Sì, dato delle spiegazioni che lui mi voleva bene, sì. Sì, mi ha fregato. Per quanto tempo? Per quasi 3 anni. Io praticamente, lui era un manipolatore della mia mente, perché è riuscito a ogni cosa che praticamente lui dava una giustificazione, mi chiedeva delle cose, ogni cosa dava delle giustificazioni, poi mi faceva trovare anche a casa la cosa che mi è rimasta impressa, dei film di paura. In quel periodo mi ricordo che lui metteva delle videocassette con dei film dell'esorcista. Che praticamente c'erano dei film praticamente con dei preti demoniati, e questi preti poi delle chiese che cadevano, e io ero spaventato, però automaticamente. Cioè, tu dai 13 ai 16 anni sei stato abusato da questo prete, dai 13 ai 16 più o meno. Sì, confermo. Ma perché non l'hai denunciato subito all'epoca? Oggi hai 40 anni. Semplice, questo c'è. Praticamente perché non l'ho denunciato subito? Io a 16 anni lo volevo denunciare. Che senso? Stavo male. E il prete. Io non mi sono rivolto a mio padre perché mi sentivo complice, perché giustamente lui non è che mi aveva minacciato, dice, con la pistola, lui mi aveva soggiornato. Sì, no, soggiogato, certo. Però bravo, voglio capire, allora, perché invece adesso, allora, 3-4 anni fa, che cosa è successo? Perché è successo circa nel 2009, settembre 2009, mentre ero in servizio in banca, ebbi uno svenimento. Ma perché tu che cosa fai? Facevo la guardia giurata, adesso ho perso il posto perché la cura di Napoli mi ha fatto perdere anche il posto di Napoli, ha fatto perdere anche il posto come guardia giurata. E perché ti hanno fatto perdere il posto? Perché praticamente io nel 2000, l'anno scorso, nel 2015, a luglio, ho mandato una richiesta scritta, un'email, giustamente solo di provocazione, dicendo alla cura di Napoli di sapere a che punto era la mia pratica, cioè non la mia pratica, a che punto era il mio stato della mia denuncia, per sapere se Don Silverio insegnava ancora, a che punto stava. Questo ha continuato a insegnare per tutti questi anni, evidentemente. Io l'abbiamo scoperto che continuava a insegnare, ultimamente abbiamo scoperto. Ma scusa, tu come fai ad avere le prove di queste violenze fisiche? C'è un qualcosa che tu riconosci come assolutamente sì, cioè, tipo, che una cosa? Prova intima particolare, intima che... Intima, sì, del suo pene c'è una malformazione che solo purtroppo... Aspetta, perché non ho capito bene. Ho perso un attimo il discorso. Cioè, il pene del prete ha una malformazione? Sì, non posso specificare con precisione perché... No, non specifica pure. Non lo voglio dire perché altre persone stanno scendendo, altre vittime che lo stanno dicendo, e io non lo voglio fare uscire fuori perché se esce fuori loro, le altre vittime posso dire con specificazione qual è il problema e non dicono che l'hanno potuto sentire per qualche parte. Ma aspetta, beh, tu hai detto una cosa, cioè tu sicuramente sei stato vittima... La prova principale, la prova regina è che questo prete... Ma non è solo quella, io no. ho anche fatto un video pazzesco. Ma quando? Che video? Ma... Ho fatto un video registrato di nascosto praticamente quando sono stato male, che praticamente sono andato da lui, l'ho registrato di nascosto e lui è vero che non ammette che sono stato violentato, però dice di non andare, io gli dico praticamente chiaramente che sto male perché lui mi ha violentato, lui non dice niente, fa finta di girare la pizza. Però a un certo punto che fa? Dice non andare dai dottori, perché questi dottori si mangiano solo i soldi, tu devi solo pregare. Vabbè, dice, ma non c'è la prova principale è questa, il fatto che lui ha un pene. C'è anche la prova scientifica che sarebbe il mio dottore che capisce che dico la verità, perché è un dottore, perché io ci sono seguito un psichiatra anche. Sì, vabbè Diego, sì, non ho capito, scusami Diego, sì, la cosa fondamentale è questa, questo prete ha un pene, una malformazione al pene. Sì, assolutamente sì. E vabbè, ma che prova questo, il prete della malformazione al pene? Cioè io ci credo che tu sei stato violentato, ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Io dico cioè tu dici cosa, è una cosa che è una cosa, altre persone potrebbero riconoscerlo da questa cosa qua. Uno potrebbe pure dire, vabbè, ma io... Cioè, non è che prova nulla questa cosa qua. Allora, scusate, questo qua mi ha comprato una motocicletta a 16 anni, lo sanno tutti quanti che a 16 anni mi ha comprato. Basta andare. Perché questo prete mi ha comprato una motocicletta? Perché sono bello, secondo lei. Lui mi ha comprato questa motocicletta perché io le stavo Ma dov'è? Dove si trova sto prete adesso? Oggi? Chiedete da Cardinale. Ma è ancora in attività? Io non lo so se ancora in... Me ne hanno detto di sì, però lo so, è cardinale. Vabbè, ma si saprà, Don Silverio Mura. Don Silverio Mura, dove si trova su Don Silverio Mura? Che per anni pare che abbia violentato te. Dov'è, sì, sinceramente ve lo direi prima io. Vabbè, fermi ragazzi. L'ultimo avvistamento è stato che stava a Ottaviano, a pochi chilometri da casa. A Ottaviano, comunque è ancora prete. Fermo là. Pubblicità. La Zanzara. Allora, caro Parenzo, abbiamo qui di fronte un caso anche... Come possiamo definirlo? Un caso pazzesco. Diego Esposito. È giornalismo d'inchiesta, Le grandi inchieste della Zanzara. Diego Esposito da Napoli, nome di fantasia, vittima di violenza. Quanto ti piace dire che il nome è di fantasia? No, non mi piace particolarmente. Vorrei invece che le persone avessero la forza di fantasia. Sì, ma vorrei che le persone avessero la forza di dire nome e cognome, ma in questo caso capisco che non si può perché per mille motivi. E praticamente ha perso il porto d'armi perché era una guardia giurata. Poi adesso ci spiegherà come, vittima di violenza sessuale per diversi anni da parte di un prete presso la diocesi di Napoli. Questo prete ha continuato a insegnare, poi pare che sia stato, non faccia più parte di una parrocchia, ma mantiene ancora l'abito talare. Sono cose accadute diversi anni fa, quando questo signore, che oggi ha 40 anni, aveva 13 fino ai 16 anni, violenze sessuali direi complete, no? Cioè, anche se poi non è che cambia molto. Però insomma è stato vittima non di palpatine, giusto Diego? Sì, allora vi dico anche un'altra cosa. Praticamente noi abbiamo altre due vittime che per mezzo del cardinale che mi ha fatto perdere il lavoro non vogliono denunciare a questa persona perché hanno paura di perdere il lavoro. Cardinale Sepe, vada a zappare! Cardinale Sepe, vada a zappare! Abbiamo altre due vittime, rete abuso, e hanno paura di denunciare per quello che hanno fatto a me. Signor Cardinale, vada a zappare! No, vada come? Io non lo so. A zappare, perché non è un uomo di chiesa. Sta facendo spaventare le vittime. Allora chiedo a Papa Francesco di intervenire subito, perché questo cardinale sta facendo spaventare le vittime. Non deve passare questo. Beh, capisco. Ah, non sei in diretta, ma l'ho tagliato. No, sei in diretta, che tagliato, sei impazzito. Diego, scusa, capisco il tuo sforzo. Allora ci sono altre due vittime che hanno detto a Francesco Zanardi che hanno paura di denunciare, di perdere il lavoro, perché hanno letto la mia storia terribile. Adesso deve venire subito il Papa, perché questi ragazzi che vogliono denunciare a Tossipelio Mura non vogliono andare avanti perché sono spaventati, e questo è il messaggio che sta passando. Intervenite subito, Papa Francesco. Allora, praticamente sta passando una cosa gravissima. Che chi denuncia, sì. Chi denuncia ha il coraggio, perde tutto, e questo non deve passare. Sono stanco. No, no, per carità, ma io capisco. Basta! Basta! Diego. Animali! Cardinale! È un animale! Beh, adesso però questo, scusi. Non può denunciare, perché non ho le prove! Ho registrato tutto! Adesso basta! Basta! Basta! Io non sono pazzo! È lui che mi ha fatto impazzire! Una seconda violenza l'ho avuto da Papa, da Cardinale! Mi sto sentendo male io, è quello che mi ha fatto! Che mi ha fatto perdere un lavoro! Che t'ha fatto? Ma rendete conto! Che t'ha fatto il Cardinale? Spiegami! Mi ha fatto perdere anche il lavoro! Cardinal Sepe, Cardinal Sepe! Sì, sì! E poi per 12 giorni, quando morivo di fame, non mi ha chiamato! Ma cosa? Non ho capito, perché ti ha fatto perdere il lavoro il Cardinal Sepe? Raccontami! Perché ha accettato le mail! Che volevo giustizia! Ah, perché questa tu avevi detto che ti volevi suicidare, dunque ti hanno tolto la pistola e poi ti hanno licenziato praticamente. Perfetto! E questo è Cardinale Sepe! E Cardinale Sepe ne ha fatte tantissime la però, carabina. Scusi, adesso noi non sappiamo nel merito la storia, no, ci sentiamo però solo questa la sua rabbia, testimonianza. Questa rabbia di Diego, no, nei capito, confronti... ma che ne sappiamo noi se il Cardinale l'ha fatto, no, davvero o no? No, ci sono altre persone che voglio denunciare in questo momento, altre due vittime. Ma perché paura. Non è andato dalla polizia, hanno scusi? Hanno paura! Cardinale! Si prende le sue responsabilità! Vada in pensione! Allora, ma perché hanno paura? Perché non vanno dalla polizia? Hanno paura perché hanno paura di perdere il lavoro! Hanno paura di quello che mi hanno fatto a me! Avete capito? Questa è l'esperienza! Perché ci sono tantissime vittime che hanno paura! Chiedete a Francesco Zanardi! Abbiamo i numeri di telefono delle abbiamo le mail salvate! Abbiamo le prove vittime che hanno detto anche loro! Diego, stai calmo, tu sei sotto psicofarmaci, non adesso, in generale sei sotto psicofarmaci! Ma adesso ho fatto, sono come mezzo a loro! No, ma sei sotto psicofarmaci in generale! Assolutamente sì, per colpa di loro! Loro mi hanno fatto peggiorare! Allora, io vorrei però mettere un punto. Perché dici, stai facendo un appello al Papa praticamente, no? Io sto facendo un appello al Papa che deve dire subito, perché sono persone che vogliono denunciare e hanno paura di perdere il lavoro per colpa del Cardinale Sepe. Deve subito intervenire, subito come... Ma subito cardinale, subito. Il Cardinale Sepe sta... che cosa sta facendo? Sta coprendo e mi ha mandato 250 euro. Che ne sappiamo noi se è vero? No, questo sì. 6 anni fa me l'ha fatta la prima denuncia, non ho più la voce. Il Cardinale Sepe quando vede a me scappa, dice che non c'è mai, perché è un uomo che non sa fare le cose, non vale niente. Però scusami Diego, il Cardinale Sepe fino adesso ti ha dato 250 euro, tu l'hai rifiutato o l'hai preso queste 250? Io l'ho presa, l'ho preso, perché ce le dava a lui. No, hai preso. Me le sono prese, sì, me le sono prese. Ma vorresti molti più soldi naturalmente. Come ma che me ne importa, ne so, voglio giustizia, voglio... Ma che cosa vuoi? Vuoi che il prete sia me? Che ne so, ormai sono tutte il prete, cose. Il prete, ma come fa a fare il prete? Ma voglio anche che il cardinale fa più il cardinale, perché il cardinale è peggio del prete che nasconde i preti. Ma stiamo scherzando! Il prete è un malato di testa, il cardinale è ancora più malato! Addirittura? Addirittura! E che mi denuncia! Io ho tutte le cose registrate in cura! Ho registrato sempre in curia! Ho registrato ogni volta che andavo! E ha registrato che viene fuori da questo? Quello lo so, io è il mio avvocato quello che ho registrato. Gliene faccio solo una, Papa Francesco, quello che ho registrato negli anni. Solo uno gliene faccio io, perché non mi sono riuscito. Lei in uno stato di shock, amico mio. Io sono rabbia perché hanno fatto di tutto. Sono animali alla cuna di Napoli e devono pagare. Allora, io dico una cosa, però, siccome il Papa chiama tutti, no? Cioè, siccome il Papa chiama un sacco di gente, potrebbe chiamare pure Diego, no? A Napoli, no? Cioè, perché ne sa? Però, scusa. Se il Papa chiama tutti, potrebbe chiamare anche, no? Ma non è che adesso verificherà. Diego, vuoi una telefonata da parte del Papa? Noi ci sentono un sacco di preti. Siamo un po', non abbiamo grandi relazioni col Vaticano, per carità, no. Non abbiamo grandissime relazioni con il Vaticano da un po' di tempo a questa parte. Noi andiamo molto più su, volendo. Sì, però non abbiamo, però possiamo ci sono molti preti che ci sentono, molti cardinali. Ma voi avete capito che è passato? Cosa è passato di questa storia? È passato che le vittime devono avere paura della Chiesa di denunciare. Ma stiamo scherzando? Lo so, ma stiamo scherzando? Ma che? Subito le mettete subito. Queste vittime devono avere coraggio. Io mi sento male, non ce la faccio più andare avanti. Vabbè, devono praticamente, deve finire questa storia. Deve finire, subito deve intervenire. Altrimenti la Chiesa fa un po' di anni chiuderà perché non ha più. Ho capito, però amico mio, tu tu però non puoi fare così, sennò altrimenti altrimenti crepi. No, ma la Chiesa, io sono cattolico. No, ma no, se continui a fare così, una di queste volte schiatti. Ma non male, perché allora secondo me perché ho fatto lo sciopero della fame? Ma non mi capisci. Perché? Perché volevi morire? No. Perché voglio giustizia. Questo l'ho capito. Voglio, basta. Io ho scelto il mio corpo in sacrificio per evitare che altre persone soffrono quello che soffro io. Non è per la mia lotta, è per tutti. Non è singola per Diego Esposito. È per vabbè, tutti. Vabbè. Comunque, gli altri devono avere il coraggio di denunciare. Su questo non c'è dubbio. No, se... Se il cardinale mette ostacoli a questa cosa, noi. Questo è quello che dice questo signore. Sì, qua. Vabbè, certo, noi saremo qui presenti, certo, a vigilare. Perché ascolta, che è disponibile a dire quello che sto dicendo, che me l'ha detto che queste persone sono spaventate. E hanno ragione. Va bene. Ciao Diego. Ciao. Grazie a lei. Ciao Diego, ciao. Allora ragazzi, dove andiamo? Dopo questa testimonianza drammatica, devo dire, drammatica senza il nostro contributo, perché a un certo punto ha perso la Trebisonda, no? Diego, il nostro amico Diego, ha perso la Trebisonda, che dire Parenzo, non so manco perché accusa la diocesi di Napoli di non fare nulla per risolvere, insomma, per venire incontro a questi qua che sarebbero stati abusati da questo prete, Questo è il punto fondamentale. Pino, sì, no, siamo d'accordo, ma non abbiamo nessun elemento per capire se lo sfogo... No, ci sono gli elementi, ci sono, perché questo qua gli hanno dato 250 euro per togliersi dai coglioni, in pratica, per cui qualcosa... C'è una denuncia alla polizia, c'è un'indagine... Sì, hanno denunciato. Vabbè, sì. Vediamo. Pino dalla provincia di Arezzo, vai Pino. Pronto? Dimmi. Niente, abbiamo ammazzato una mamma di Capriolo, un piccolo di Capriolo, sabato prossimo facciamo una cena... E a mezzanotte c'è il gioco del bordello. Cose allene, dai. Cioè, non ho capito. Allora, ricapitolami tutto. Allora, niente. Lo scorso fine settimana, regolarmente permesso dalla provincia, ho ammazzato un capriolo e un piccolo di capriolo che finiranno in pentola, come è giusto che sia. Sì. Faremo una bella cena, siamo una ventina di persone, tutte coppie, sì. E poi faremo il gioco del bordello. Qual è il gioco del bordello? Il gioco del bordello è un gioco che facevamo all'università. Sì. Per cui facciamo una colletta fra i maschietti. Sì. Andiamo a comprare dei regali, premi o scalari per tutte le signore. Sì. Dopodiché, a mezzanotte, finito la cena, cresciuto un po' il tasso alcolico, vengono distribuite delle fish. Sì. Una quantità uguale a tutti i maschietti. E alle 3 di notte si chiude il gioco. E la signora che con qualunque mezzo ha guadagnato più fish si fa una classifica e prende i premi. E che premio sarebbe? I premi, quelli che abbiamo comprato noi da un nostro amico. Ah, che vabbè, è un gioco innocente, diciamo. Sì, cioè, innocente. Ma io pensavo fosse un gioco mezzo erotico, ma non c'è nulla di erotico. Giuseppe, cioè, dai, non fa così, che non sei ingenuotto. Cioè, finisce come può finire in tutti i modi. Ho capito, con però. Qualunque mezzo, cioè, a un certo punto la signora si deve guadagnare queste fisce che c'hanno i maschietti. E quindi come se le guadagna? Come ritiene più opportuno, come gli riesce. Non chiederemo tu mai. Tu l'hai visto? Come si chiama questo? Cioè, come si chiama questo gioco? Il gioco del bordello, noi lo chiamiamo. Il gioco del bordello. No, mai. Io già ne giocavo a Risico, a Monopoli. Vabbè, Pino, il gioco. Parenzo, a te non ti inviteremo. Cruciani, se porta una bella signora, potrebbe venire, ma a te non te ce vedo. Ah, perché le vostre sono delle cesse, stai dicendo. Come dici, scusa, non ho sentito. No, perché vuol dire che sostieni che quelle che avete lì sono delle cesse. Molti persone normalissime. Persone normalissime. Va bene, Pino, ciao. Franco, Reggio Emilia, vai, Franco. Guarda che c'è gente in giro. Franco. Pronto? Dimmi. Pronto? Franco, dimmi. Io sono indignato. Sei indignato, un altro indignato. È giornalismo spazzatura. Quale sarebbe, voi, scusa? Voi non potete invitare un qualsiasi mitomane e sputanare la gente senza nessun riscontro e fargli dire quello che gli pare. Ma di chi stai parlando? Del signore di prima, Diego di Napoli? Sì, lui. Ma guarda, ti assicuro che io volevo semplicemente fargli raccontare quello che è successo. Dopodiché, all'improvviso, ha perso la Trebisonda, ha perso la brocca, come si dice. Però magari ha ragione. Gli tenevi il bordone. Okay. Una volta che sta lì, ha perso la testa, cerco di capire perché ha perso la testa. A un certo punto, esaurito tutto, ho chiuso il cerchio e ho chiamato un ascoltatore. Qual è il punto? Non ho capito. Cioè, non... Il punto è che nella prima fase, quando si vedeva che lui faceva nome e cognomi, Ha fatto solo un nome e un cognome. Non puoi sputanare la gente in quella maniera. Ma io non lo so, ci sono le denunce, c'è anche un'inchiesta del Corriere della Sera, peraltro, su questo signore, sul prete che avrebbe fatto le violenze, per cui mi sembra che le cose siano lì a portata di tutti, tutti possono verificare queste... Però voglio dire, andateci piano con le inchieste. Ho capito, amico mio, diretta, ma non c'è nessuna inchiesta qui, abbiamo chiamato un signore il quale poi a un certo punto ha sbroccato contro il Cardinal Sepe, che a suo parere non farebbe parlare gli altri che sarebbero stati violentati. Della fase iniziale della telefonata, quando ho parlato della prete con il membro strano. Ho capito, ma se quello dice che il prete c'ha il membro strano, mica è colpa mia, mica gliel'ho detto io di dirlo, scusa, mica ce l'ho io il pepe. Io ce l'ho normalissimo, tu ce l'hai normale? Hai qualche malformazione? Io no. E allora non sei tu, cioè non sei tu il prete che ha violentato il ragazzino. Io pure, io, tu Fiorenzo, tu hai qualche malformazione al pene? Ma che sei matto? E no, allora non sei tu che abbiamo già accertato. Poi a Napoli, ma tu a Napoli non sei stato prete, non sei prete, non questo sei. È il dato di fondo, allora, diciamo, poi sul resto noi si siamo a posto. Ma scusa, ma se questo ha detto che il prete è riconoscibile per una malformazione al pene, ma sarà colpa mia, Franco? Cioè, il punto non è questo, il punto che è io lo faccio parlare. Ho capito, ma allora prenditela pure col Corriere della Sera, che ha fatto un'inchiesta su questo signore. Hanno fatto un'inchiesta, ma non rompere i coglioni, Franco, non mi rompere i coglioni. Hanno fatto un'inchiesta sul Corriere della Sera. Era fatto in diretta, ma non c'è nessun riscontro. Senti, giornalismo d'inchiesta, il giornalismo d'inchiesta è una cosa per cui ci siamo presi per il culo. Ci siamo presi per il culo da soli. Se non hai capito la battuta, Franco, non è colpa mia. Figuriamoci se pretendo di fare il giornalismo d'inchiesta. Le grandi inchieste della Zanzara, quando noi diciamo così, è un po' una presa per il culo, amico mio. Se non l'hai capito, forse sbagliamo noi. Non lo so, ma forse può darsi pure che ci sia qualcosa che non funziona nel tuo cervello. Fermo lì. A me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. La Zanzara. Allora ragazzi, grande ritorno nella radio mondiale, direi. Caro Parenzo, tu non conosci questi personaggi perché della radio non sei una mazza. Te lo introduco io, il G, personaggio mitico negli anni 80, negli anni 90, non solo a Firenze ma in tutta Italia. Ispirò addirittura, caro Parenzo, il G ispirò il programma del tuo amico Benincasa, Libero, di Mammucari. Prese ispirazione dalle telefonate nelle piazze, nei teatri, da quello che ricordo, da quello che mi ha raccontato Gianni Greco, che è il vero nome del G. Greco, vero? Non Gerardo Greco. No, Gianni. Gerardo è il conduttore di Agorà, dove c'è anche tua moglie, non c'entra niente. Gianni Greco. Non è che Greco si chiama solo Gerardo. Greco è anche quello che è andato a Zurich adesso, Davide ex Romano. Di Generali. Ma tu dimmi se Davide Romano deve chiamare quando uno è in diretta. No, perché ti vuole parlare del signore di Napoli che ha sbroccato, sicuramente. Sì. Comunque, lasciami finire. Allora, il G non fa radio da qualche anno. Amico mio, torna qui alla Zanzara. Per un po' di tempo manderemo in onda le sue telefonate storiche, le sue telefonate prima di nuovi personaggi che verranno introdotti nei prossimi mesi. Si può dire che è stato l'antesignano di moltissime. Chi è che chiama in diretta? Chi è che fa squillare il telefono in diretta? Parenzo, come al solito. Romano, no, chiama, poi dice: no, scusa, mi è partita per sbaglio la chiamata. Andassi a fare in culo, Davide Romano. No, però dai, come ti permetti? Chiama in diretta, fa squillare il telefono. Ma che comunque scherzi. Dicevo che il signor G. Anzi, il G è stato l'antesignano di moltissime trasmissioni radiofoniche, perché, diciamo, un'audacia tale nelle telefonate, negli scherzi, tutto in diretta, c'erano bestemmie pazzesche, insulti, cose pazzesche, tutto in diretta, non è mai stato raggiunto. Non so quante querele abbia il signor G. Noi lo riprendiamo alla radio, con grande piacere, caro Parenzo, e iniziamo così. Il sondazzo. Le celebri provocazioni telefoniche del G. Vietato ai minori di spirito. Pronto? Parlo con Giuseppe? Sì. Ecco, io le devo dire una cosa che forse non le farà piacere, peraltro gliela devo dire. Sì. Sua moglie non le ha detto niente? Mi dica. Non le ha detto niente sua moglie, sicuro? Ma scusi, lei chi è? Non la conosco. Io mi chiamo Colombo. Sì. Sono praticamente Francesco di nome, Colombo di cognome. Sì. Sono, come dire, è difficile dire la parola amante. Direi innamorato di sua moglie, via, forse meglio dire, via. E cosa significa tutto questo? Significa che io e sua moglie ci amiamo. Ma le crolla il mondo addosso? Sì, ma... Le sta crollando il mondo addosso? Sì, ma io vorrei sapere chi è... Sì, lo so che le sta crollando il mondo addosso, ma non potevo più dire, far finta di niente, eccetera. Io ho già lasciato mia moglie. Sua moglie non lascerà lei. Allora sta sbagliando. No, ci mancherebbe altro. Signor Giuseppe. Dice mia moglie che la conosce. Per forza, non ha il coraggio di dirglielo, ma io sì, glielo dico. E allora cosa vuoi? E allora mi dispiace, come io ho lasciato mia moglie, sua moglie lascerà lei. Io e sua moglie ci mettiamo insieme. Ma guardi che lei sta sbagliando. Le sta crollando il mondo addosso, vero? No, secondo me più che crollare il mondo addosso, ma lei si è un sacco di cazzate, ha sbagliato il telefono, non lo può capire. No, no, signor Giuseppe, per carità di Dio, lei sta in via Iris, no? Un certo Francesco Colombo. Francesco Colombo, sì. Lo so, sua moglie non ha il coraggio di dirglielo. Però si faccia dire da sua moglie che nottate abbiamo passato insieme. Ma che cazzo sta dicendo lei? No, ma dove? No, non erano proprio nottate, ma diciamo di giorno, via. Ma dove? A letto. Ma siete, io mi sono anche un po' scocciato. Guardi che lei non sa più cosa dire. No, io non so cosa dire. Le sta crollando il mondo addosso? Le sta crollando il mondo intorno? Ormai per lei la vita è finita, non ha più niente da dire, più niente da fare? Allora, non è colpa mia. Allora, e non è colpa, è colpa sua, perché l'ha sempre trascurata quella donna, capisce? L'ha sempre trascurata. Allora, sono arrivato io, l'ho tirato fuori, l'ho detto io, ecco qua, io sono toscano, capito? È tutta un'altra cosa con i genovesi, figuriamoci. Allora, mi fanno la cortesia di darmi il suo numero di indirizzo? Certo, io mi chiamo Colombo. Scusa, no, così almeno Francesco. No, perché mi deve dare numero telefonico 111111. Sì, ancora prefisso 11. Sì, quanti uno ci mette sopra? Tutti quelli che mi sono perso. Ecco, sì, come dice quella pubblicità. Mi dica un po' il numero di suo indirizzo. E il mio indirizzo? Sì. Via degli Indiani numero 23. Che non esiste. Ah, non esiste? Non esiste? Ah, no, non esiste. Dove? Sì, ma scusi, dov'è? In America o a Genova? No, perché? Le mi ha detto solo il nome, ma non mi ha detto la città. Colombo? Sì, mi ha detto, non mi ha detto la città. Via degli Indiani dove sarebbe, secondo ma lei? Ma cosa c'entra l'America con gli indiani, scusi? No, lei non mi ha detto, gli indiani stanno in India. Indiani, potrebbe essere in America come a Genova. Ma quale America? Ma sì, anche Colombo... Sì, da lei è un emerito, un imbecille, non mi ha detto di sé. Lei è un emerito cornuto, arrivederci. Sì, lei è un imbecille, lei è un cornuto. Di Genova. Lei è un cornuto di Genova, ha capito? Lei è un cornuto di Genova, chiaro? Via. È un genovese cornuto. Genova, quando si arriva lì si vede, no? Ah, ecco Genova. Lei è un grandissimo. Questo è Genova, qui ci sono le corna di Giuseppe. Si vede uno svettare. Imbecille. È un grandissimo figlio di Belin. Ecco, lei mi venga a trovare a casa, così la sistemo subito. Cosa mi sistema subito, sì, intanto lei si becca subito una querela. Sì, subito, guarda, me la becchi subito, me la benissimo. Becchi. Becchiamoci. Lei e Belin è come lei toscani, io sono delle feste di cazzo. Feste di cazzo toscani? Ecco, vai a fare in culo, Belina. Dai, cornutone! Tu pensa se ti chiamano a casa, se ti chiamano a casa e ti dicono che si sono fatti tua moglie, come reagisci tu? E intanto io per questo non ho il numero di casa, infatti. Vabbè, al telefonino a casa, quello che ti dice, e uno ti dice... Beh, non mi incazzo, ma sicuramente reagisco... Forse ha reagito in modo troppo... poco attivo l'amico genovese, io mi sarei proprio incazzato. No, ma vabbè, ragazzi, io non so nemmeno quando è andato in onda questa telefonata. Comunque era un genio questo, una genio. Delle telefonate del G storiche. Andiamo agli ascoltatori. Max da Pavia. Max, vai. Sì, dottor Cruciani, buonasera. Sì, dimmi Max. Volevo portare il mio contributo su quelle che erano le sue fantasie erotiche, cioè il giorno perché di arrivare a prendere con il culo. No. Max, andiamo calmi alle 20:23, abbiamo avuto il G, eccetera, sui tradimenti, eccetera. No, adesso dimmi che cosa c'entra. Io non ho mai detto che ho una fantasia erotica di prenderlo in quel posto, mai detto una cosa del genere, non ho mai sostenuto. Diciamo che dopo 40 anni di frequentazione di donne di malaffare, tue donne di malaffare, non io, sì, tue no, donne io, di malaffare, tue? Sì, senz'altro, però sono sempre stato incuriosito da quello che poteva essere l'uccello, perché quando uno poi è stanco di passera... non di passera, quello che si candida al sindaco di Milano, quando è stanco della passera, diciamo. Della passera? Sì. Allora ho voluto fare questa esperienza, nel senso che... Cioè tu stai dicendo che l'hai preso in quel posto? Sto dicendo che hai voluto provare in modo scientifico, proprio per capire se quello era il mio futuro. E quindi concentrarmi su... Scusa Parenzo, io ancora sono... ancora mi pongo la domanda: perché Max da Pavia chiama la Zanzara per raccontare come esperienza, per fai provare male tu a chiedertelo, per provare a... Perché secondo se me se è fatto mettere in culo, io vorrei capirlo. Fai male a chiedertelo. Penso tu. Che lei in futuro dovrà arrivare anche lei attraverso questa esperienza, quando sarà saturo ti ha individuato settore femminile. Comunque, vabbè, com'è stata questa esperienza, Max? Questa esperienza è andata in questo senso: siccome il forellino era molto, molto... No, vabbè, molto ragazzi, chiuso. Però non possiamo andare nel dettaglio di queste cose. Dimmi com'è stata questa esperienza. Dimmi com'è stata questa esperienza. Questa esperienza gay, com'è stata? Positiva, negativa? Ti è piaciuta? È inutile che mi racconti, no? Entrava così, non entrava così. No, perché non c'è. Ma non ce ne frega niente a noi come entrava, dai, su. Allora, ho individuato. Vabbè, incredibile, delle dimensioni minuscole. Oddio, ancora. Ma allora è stata un'esperienza positiva o no? Allora, l'esperienza è stata esattamente questo. Praticamente, una volta che l'uccello è entrato in penetrazione, e questo è il momento clou, le dico la sensazione. Ma che porcheria. Ma no, perché non si vergogna di raccontare ste schifezze? Ma non ha un minimo di pudore? Ma che razza di uomo è lei? A quest'ora ci sono un sacco di bambini nelle macchine, amico. Ma no, ma al di là di quello, ma che uomo è lei? Ma con che faccia torna a casa? Con che faccia guarda un amico domattina? Noi non diciamo mai nulla, non parliamo mai di sesso. Anche dopo le 20:30 non parleremo mai di sesso. Non faremo niente. Siamo degli stinchi di santo. Non vogliamo questi racconti così dettagliati. No. Dai, allora, su. No, vorrei esprimere il concetto. Ma finale, non c'è da esprimere nessun concetto. Allora, non è un concetto. Una volta che mi sono trovato questo prescelto all'interno. All'interno. Ecco, la sensazione che c'è stata è quella di una cosa fastidiosissima. Non è che hai scoperto l'acqua calda, hai scoperto grazie a questa esperienza concreta che non ti piace pigliarlo in culo. Ma è molto semplice la cosa, non è particolare. No, un attimo. Le do proprio il dettaglio specifico. No, ma non voglio il dettaglio specifico. Ti è piaciuto o no? Io voglio solo sapere da te, Max. No, scusami, allora, perché non mi interessa la spiegazione tecnica. Allora, ti piace, ti è piaciuta l'esperienza o no? Mi faccio dire questa cosa. La vuole dire per forza, anche di goccio. La sensazione che c'è stata è come quando uno è stitico, va a cagare e si trova uno stronzo che non riesce a uscire perfettamente. È impazzito zona... questo Max. Cioè, ma non ha un minimo di pudore verso se stesso. Ecco, dopodiché... Ma scusa Max, ma tu non hai... Ma chiudilo, mandala a quel paese. Basta, hai rotto le scatole. Cioè, ti è piaciuto? Io voglio solo sapere questa, voglio solo avere da te questa risposta. Ti è piaciuto o no? Quando questo l'ho tirato fuori. Ti è piaciuto o no? Quando questo signore ha estratto il suo uccello, quella è stata una sensazione meravigliosa. Cioè, di non averlo nel culo. D'accordo, benissimo. Hai raccontato bene. Hai voluto provare e non ti è piaciuto. Bene, tutta questa pantomima per dire che non ti è piaciuta l'esperienza gay. Vabbè, ragazzi, ma che devo fare io? Andrea da Roma, dai. Cosa devo sopportare? Dai, Andrea. Sì, ciao. Sì, dimmi. Volevo dire una cosa simpatica su Gandolfino. Gandolfini, cazzo, Gandolfini, creare quant'altro, no? Sì, sì. Ecco, lui c'ha 7 figli, tutti adottati. Sì. Due li ha presi in Brasile, uno in Perù, 4 in Italia, cioè è andato in giro. Vabbè, quindi non è che non è attaccabile per questo Gandolfini. Ma io non me lo sto attaccando, sto facendo una considerazione. Ah, tu dici sulla questione del sesso che ha detto, no? Sì, ma io dico. Vabbè, tu dici se non fa sesso per procreare, tu dici che poi lo fa. Beh, per non piacere. È un argomento questo. No, se no. Ne frega. Vabbè, è un'informazione. Ha sette figli, tutti adottati. Stiamo parlando del signore che ha organizzato il Family Day, per cui io ho grande rispetto. Ovviamente poi giudico le parole che vengono pronunciate. Ma assolutamente grande rispetto. Io, per carità, che ando fino alle sue idee, trovo anche ridicole tutti gli attacchi di Saviano, che dice che è una piazza che non vuole riconoscere l'amore. Non c'entra assolutamente nulla questa roba qua. Sono assolutamente convinto che quella piazza sia una piazza che ha la sua legittimità. A me non piacciono le manifestazioni, cioè sono contro le unioni gay, sono contro le adozioni, è legittimo essere contro. Io sono a favore invece sia delle unioni, anzi del matrimonio, sia delle adozioni. Dopodiché penso che sostenere che il sesso si fa solo per procreare sia una follia, una follia senza senso, ma soprattutto una cosa lontanissima dalla realtà. Cioè, auspicare un mondo dove si fa sesso solamente per procreare significa, non lo so, pensare a un mondo che non esiste, che non è mai esistito, nemmeno quando il sesso era meno libero di adesso. Non so come dire, fermo. C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guardi, da chiudere. La Zanzara. Ho stappato una bottiglia di Amarone e me la sto gustando mentre ascolto la Zanzara, alla faccia di Parenzo. Ragazzi, non pensavo che un essere umano potesse diventare così tossico, così malato, così perverso per una trasmissione radiofonica come la Zanzara. Non mangio più, non scopo più, non bevo più, penso solo alla Zanzara. Mi state ammazzando. La Zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà. Cauciani, quando corro sul tapirulan, io voglio ridere e voglio incazzarmi ascoltando la Zanzara. Quindi fammi ridere, fammi incazzare, così corro più. Voglio ridere e incazzarmi, hai capito? Ciao, sei un gran maleducato, guarda, perché tu, ognuno ha le sue idee, però tu non devi dire che Bagnasco è, non è niente qui, non è niente lei, il governo sì. Il governo, certo che va rispettato, ma va rispettato anche le idee degli altri. Io, per esempio, non ho mica niente contro i froci, i finocchi, come li vuoi chiamare, però li ho sempre rispettati, però loro stanno là e io sto qua. Ma secondo te, scusa, sai, con che cosa li fai i tuoi figli? Col di dietro? Certo che a Parenzo non piace la maggior parte della gente che chiama la Zanzara. Pensa che quello che aveva registrato la voce di Verdone, che ce l'aveva fatta sentire, sia un malato, invece è un genio. Non gli piacciono Donato da Varese e Mauro da Mantova, che sono i migliori. E cioè, dovrebbe smetterla di sputare nel piatto dove mangia. E De Benedetti? Allora ragazzi, andiamo a Napoli da Lucio. Ma vai. Scusami, ma dimmi, la nonnina di Parma o di Bologna, non ho capito la gente, quella sì, è stupenda, la nonnina di Bologna. I figli non li fai col di dietro, e come ho capito, ma che c'entra? Lucio. La nonnina di Bologna. Lucio da Napoli. Sì. Lucio da Napoli. Buonasera. Dimmi. Buonasera, io sono incredulo per quello che ho dovuto ascoltare dalle parole di questo signore di Napoli con i suoi problemi. Amico mio, però quello là dice di essere stato violentato da un prete per anni. Faccia prima parlare. Amico mio, però un po' di rispetto, quello ha sbroccato. Sì, faccia prima parlare però. Sì, dimmi Lucio, dimmi. Cioè, è gravissimo, cioè in effetti che voi avete dato la possibilità a questa persona, dopo che ha raccontato la sua storia, che ormai è risaputa, è risaputa. Ma lei veramente Parenzo, per esempio, non la sapeva. Se lei la sapeva, no, guardi che anche se è una storia risaputa, Parenzo, praticamente non parliamo di Parenzo. Ma Lucio, scusi, ma se non la storia è risaputa, di chi si lamenta? Ma se non la storia di, è risaputa, non parliamo di Parenzo. Non parliamo di Parenzo, ha detto. Ma chi è questo? Ascolta, non parliamo di Parenzo. Lucio allora da Napoli. Non parliamo di Parenzo, Lucio. È consentito a questa diventa come il G. Non parliamo di Parenzo. Premetto che io non sono un cattolico praticante. Scusi, Lucio. È consentito di parlare del cardinale Sepe. Lucio. È una persona di una squisitezza. Ho capito, ma che ti che ci posso fare io se quella sbrocca? Ma lei da un certo punto ha il dovere di dover bloccare una persona praticamente ripetitivamente ha sparlato in una maniera indecente. Non parliamo di Parenzo, non parliamo di Parenzo! Nei confronti del cardinale Sepe, è chiaro. Praticamente, non si deve conoscere questo cardinale. Vabbè, ma io non lo conosco il cardinale Sepe, quello ha detto che è un maiale, non so che ha detto, no? Maiale. Ma sono cose pratiche, cioè questo è uno fuori di senno. Adesso ho capito. Io le dico da psicologo quello che sta succedendo in questa situazione, che sto seguendo soltanto dai giornali, soltanto dai giornali. E allora, se lei sta seguendo dai giornali, che vuole da noi? È perché voi praticamente a un certo punto, cioè, consentite. Questo signore è stato chiamato dall'entourage di Papa Francesco, per cui praticamente si sta andando avanti in tutti gli accertamenti, ma questo evidentemente non gli basta, ha bisogno di pubblicità. No, ha bisogno forse di... esasperato, di risposte, di giustizia, che ne so. Non ho capito, Lucio, secondo lei questo qua non vuole giustizia, vuole solo soldi, che vuole? Questo signore che praticamente ci sta tutto a monte... a 40 anni ha una depressione, questo l'ho letto nei giornali, e quindi in effetti uno psicologo stabilisce che la depressione dipende da questa violenza che avrebbe subito. Lei non ci crede? Quindi, lei non ci crede? Io da psicologo ho tutti i miei dubbi. Va bene. Amico mio, però scusi, ma guardi che lei è una vergogna, cioè questo qua sarebbe stato violentato da un prete a 13, dai 13 ai 16 anni e lei dice vabbè, ma tanto. Non dico va bene. Ma si vergogni, si vergogni. Questo è psicologo, io sono Samantha Cristoforetti. Si vergogni. Lei si deve vergognare, si deve vergognare. E adesso cerca praticamente di tergiversare rispetto a quello che io sto cercando. Si deve vergognare lei, si deve vergognare. A vergognarsi deve essere lei per questa pessima trasmissione che fa e che attraverso la quale vengono infangate persone. Prima Lucio, lei è psicologo? È psicologo? Allora? No, chiedo, lei è psicologo? E io sono Samantha Cristoforetti. Se lei è psicologo, io sono Sebastiano Barisoni, guardi. Ma a me cosa mi importa quello che è no, lei? No, beh, cosa le importa di Barisoni? Ma è molto grave quello che sta dicendo. Cioè, lei dice cosa gliene importa di Barisoni nella radio di Confindustria? Lei, Lucio da Napoli, dice cosa me ne importa quando noi pronunziamo la parola Sebastiano Barisoni? Io sono antinapoletano, praticamente, per voi. Lucio da Napoli, lei è radiato dalla Zanzara. Non si parla male di Sebastiano Barisoni. Sigla! Ciao, Lucio. Ma come si permettono? Mamma mia, un attentato proprio alla... Che gente. Allora, io devo risolvere però una questione, caro Parenzo, che è quella che molti signori vegani pongono, cioè una questione fondamentale. Fondamentale. Cioè, i vegani sostengono che loro fanno sesso meglio. Cioè, vegans it better, come si dice, no? Cioè, come una volta c'erano le magliette, gli italiani lo fanno meglio. Loro dicono questo, che non mangiando tutto quello che mangiamo noi normali, loro vegani, lo farebbero meglio. Fanno sesso. Allora, io voglio risolvere una volta per tutte questa questione con un noto sessuologo e psichiatra che recita ogni tanto anche negli studi televisivi, che è il dottor Marco Rossi. Buonasera, eccomi qua. Finalmente un sessuologo per Parenzo, perché Parenzo ogni tanto chiede: ma perché non inviti mai un sessuologo? Ogni tanto l'hai detto. Quando devi parlare di sesso invece delle pornostar, perché queste è un cose... tema che è assente dalla nostra trasmissione. No, ogni tanto tu mi hai detto invece delle pornostar o di altri ascoltatori malati, invita un sessuologo, no? Un sessuologo così. Sì, spesso lo dico. Lei, ad esempio, dottore, si intende di sessuologia, ma del caccarant, che ne sa? Io quando sento l'indice, questo non c'entra niente. L'indice di borsa però francese. Lo so che è la radio di Confindustria, quindi va benissimo. Le dirò una bestialità. So che il del gruppo. Ma quando io sento l'indice cacca. 40. Sì, no, io vado ai passi. E io dico, ma che cos'è lì? Ma no, io lo so che cos'è. Ma secondo te, ma uno che è in macchina, no? Io per carità, poi grandissimo rispetto. A me lo, dici. Dice, c'è 40 che mi manda i matti. Perché invece, invece chi pronuncia il nome della borsa di Francoforte in tedesco? Beh, no, anche quello. La borsa di Francoforte in tedesco. In tedesco. L'indice. In tedesco. L'indice caccarante in Italia, che nessuno sa, nessuno purtroppo sa. C'è qualcuno che ancora, non mi ricordo chi, qualcuno che pronuncia l'indice della borsa di Francoforte in tedesco. Beh, stupendo, questo è stupendo. Che è una, per carità, una forma di grandissima cultura. Non c'è dubbio. Sì, però c'è anche della. Come si chiama in tedesco? Non lo so, chi? Non è un tedesco, è italiano, cioè quello che pronuncia. In tedesco dici lì. Come si dice in tedesco? Si dice, non so, in tanti anni lo ascoltavo sempre. Adesso vedrai questi somari che cercano su internet, caccarando, dice forse cercavi. No, com'è la borsa in tedesco? Si chiama quella di Francoforte, non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? No, la borsa di Francoforte in tedesco, non so come cazzo si dice, non mi ricordo. Vabbè, professor Rossi, allora io, dottore, professore, quello che sì. I vegani lo fanno meglio oppure no? Però mi dia una sentenza definitiva, non faccia democristiano. No, no, è assolutamente falso queste cose che dicono. È assolutamente falso. Allora, diciamo una cosa: è vero che mangiare troppa carne animale, carne rossa per intendersi, fa male alle arterie. Ma questo fa male al cuore, fa male alla circolazione, perché aumenta i depositi di colesterolo nel sangue. Sì. Ma da qui a dire che chi fa una dieta vegetale ha un migliore vegana, diciamo vegana. Cioè, assolutamente un mare, cioè non è assolutamente possibile. Cioè, secondo lei, anzi, chi ha una dieta vegana e che quindi utilizza moltissima soia e i suoi derivati, sì, aumenta i fitoestrogeni. Aumenta i fitoestrogeni. No, non mi faccia, cioè, come i cacche carantele, i fitoestrogeni. Gli estrogeni che derivano dalle piante, sì, no? Che allora? Sono naturali. E questo fa aumentare gli estrogeni nei maschi, l'aumento degli estrogeni nei maschi dà una diminuzione di testosterone, quindi diminuzione della libido, problemi di impotenza. Per cui non è assolutamente attenzione, vero, cioè l'esagerazione, il veganesimo spinto, diciamo, un veganesimo trentennale, quarantennale, bravo, potrebbe, no, ovviamente non è una regola, non è una legge, noi siamo sempre così perché loro hanno certezze, noi non abbiamo certezze, noi ci affidiamo alla scienza, loro si affidano ai guru, si affidano a tutte le cose loro, vabbè, questo lo dico io, non lo deve dire lei. Allora, professore, dottor Rossi, lei sta sostenendo questa cosa qua, che se uno per 30 anni segue una dieta vegana, producendo, com'è che si chiamano, i fitoestrogeni? Introducendo con la sua dieta tanti fitoestrogeni, rischia di aumentare troppo i livelli di estrogeni proprio del sangue, e quindi questo altera l'equilibrio endocrino, cioè di produzione degli ormoni, tipica dell'uomo. E nell'uomo succede? È importante che sia prodotto tanto testosterone e pochi estrogeni. Capito, testosterone, meno estrogeni. L'ormone del sesso. Questo è il punto. Dunque non è vero che è evidente che se uno poi mangia come un dannato e faccia una panza così, e quello è un altro discorso. Noi stiamo parlando sempre di una dieta normale, non stiamo parlando di persone che esagerano, no? Allora, è evidente io che... intendo dieta normale, dieta sana, intendo l'uso della carne, anche carne rossa, ma una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Cioè la carne non fa male all'erezione del pene, questo è il punto, cioè all'erezione, no? Certo, se mangiamo un chilo di carne rossa al giorno, certo, perché aumenta il livello di colesterolo. Ah, e dunque, col colesterolo che succede? Il colesterolo, qual è il collegamento tra il colesterolo e l'erezione? Scusi, questo è fondamentale. Questo. Il colesterolo si deposita sulle pareti delle arterie e quindi ostruisce le arterie. Ostruendo le arterie, anche le arterie del pene, questo può portare a una diminuzione del riempimento delle arterie del pene quando chi serve per l'erezione. Oh, ma lo sai, ma che è lo stesso sai... rischio dell'infarto. Assolutamente, assolutamente. Ecco. Parenzo, lo sai che il dottor Rossi è veramente bravo? No, cioè, beh, è veramente bravo. Questo si capisce. Lei è andato da Vespa, dottor Rossi? No, mai, volta. La Vespa non mi ha mai invitato. Ma come mai? Non è così chiaro, così lineare. La cosa è incredibile. Da Barisoni è stato mai? No, da che Barisoni? C'entra Barisoni? No, scusa, non lo so. Chiedo, ma che c'entra Barisoni? Al massimo sarà stato dalla Nicolè. No, dalla Carboni, sì. Da Carbone, Radio 24, sì. Radio 24, sì. Molto bene. Da Milan? Assolutamente. No, da Milan no, non c'è nulla. Ma non lo so, chiedo. Allora, io voglio capire una cosa. Dunque, abbiamo risolto questa questione fondamentale perché lei, come lei sa, un'associazione vegana voleva trasmettere uno spot durante il Super Bowl. Sì. L'associazione PETA, con un video anche molto bello. PETA si chiamava. Io lo chiamo PETO, Associazione PETO. Ah, ecco. non avevo capito. Associazione PETA, è inutile che ti dico un acronimo che significa delle cose. Questa associazione voleva trasmettere questo perché è stato bloccato perché era un po' spinto, in cui c'erano due scene, una coppia diciamo di carnivore, una coppia vegana, e si vedeva che la coppia vegana era diciamo più abile nel fare sesso. Cazzata pazzesca. Sì. È evidente che è una cazzata pazzesca. Io la cosa la voglio chiedere è questo. Ma l'annosa questione del cunnilingus. Del cunnilingus e della cancro alla bocca è tornata di nuovo di attualità questa cosa qui con un'ulteriore ricerca. Io non ne posso più di questa cosa. Allora, anche qua, allora, il mi dia una risposta virus, definitiva. L'herpes virus, ovviamente, può essere è nei genitali, no? Si può essere la presenza di herpes virus nei genitali. Ovviamente, i rapporti sessuali senza preservativo possono aumentare il rischio di tumore del collo dell'utero, e questo è una cosa che è saputa. Si è visto che i rapporti orali, ma non è detto il cunnilingus, al pari anche i rapporti donna-uomo, cioè i rapporti dove no, perché lì c'è quello che c'è nella vagina, no? C'è il, come si chiama? Ma è la stessa cosa, perché l'herpes virus è l'uomo lo trasporta. Cioè bisogna preoccuparsi o no? Questa è la cosa che le voglio chiedere. Allora, quando uno pratica il cunnilingus, bisogna preoccuparsi? Ecco che arrivava là. Come in tutte le cose del mondo, bisogna preoccuparsi nel limite delle cose sane. È meglio che uno non ci pensi, diciamo la verità. Se uno cambia 30 partner al giorno, è quello il punto. Lingus con 30 partner diversi al giorno, e gli viene anche il dente rovinato, certo. Il rischio percentuale di avere dei tumori in gola è e si rovina anche il dente, però, no? Però dottore, se lei ha dato una cifra, una cosa, addirittura 30 al giorno, e se uno ne cambia, che ne so, 10 al mese? No, anche qua è difficile fare una... Cioè, il rischio aumenta? Il rischio aumenta di tumore alla gola? La promissione aumenta il rischio delle malattie sessualmente trasmissibili. Vabbè, d'accordo, però il cancro alla gola non è una malattia sessualmente trasmissibile. È trasmissibile attraverso l'herpes. Cioè, la promiscuità aumenta il rischio di cancro alla gola, questo può aumentare, certo. È chiaro, poi la promiscuità, che cosa intendiamo? Perché promiscuità è anche se io ho rapporti con due persone, no? La promiscuità è anche quando ne ho 30. Per cui dipende, sono tutte cose che hanno riguardato la vita di Cruciani. Del sano, cioè è come il bicchiere di vino, Cruciani, cioè un bicchiere di vino non fa male. Certo, se beviamo due bottiglie di vino al giorno, forse ci andiamo incontro a qualche conseguenza, no? Lo so, dottor Rossi, il problema è che uno a un certo punto bisogna fare sempre le sentenze, cioè quelli che vogliono mistificare sui risultati scientifici. Cioè, secondo lei la promiscuità, il sesso il sesso, diciamo, con più partner è contro, no, un'altra cosa, è contro, come si fa poi ad andare con una sola donna? È difficile, cioè... Ma è una questione di scelte, la vita è fatta di scelte, ci può essere una scelta che riguarda la fedeltà, ci può essere una scelta che riguarda... Cioè, è complicato pensare a fare sesso solamente con una persona che magari ami, che magari... È un impegno! È difficile se poi c'è passare da una situazione di estrema promiscuità sempre con tutti i controlli, con tutte le cose, per carità, promiscuità stiamo parlando di altre cose, poi decidere che di fare sesso... È una questione personale. No, ma lascia perdere, è una questione che voglio da dottor Rossi. Cioè, come si fa a passare, no, a passare il guado? Ecco, lei è anche psichiatra, come si fa a superare questa condizione? Per una persona che magari... Per una persona cui vuoi bene, questo è il punto, come fai? Cerco di spiegarglielo in questo modo. Se ci si abitua troppo a un eccesso di stimolazioni eccitatorie, esatto, tipo quella della promiscuità, sì, è ovvio che poi, abituati a quei livelli, qua non voglio complicare il discorso, ma no. Di dopamina, abituati a quei livelli di dopamina. Cioè è una dipendenza, è una sorta di dipendenza. No, sto parlando per un mio amico che me l'ha raccontato. Per cui è ovvio che poi, da un punto di vista comportamentale, bisogna poi riabituarsi. È una malattia, secondo lei? È una malattia? Allora, ci possono essere la dipendenza. Di casi di patologia. Esatto, ci possono essere dipendenze di questo tipo, anche il sesso. Lo dirò a questo mio amico. È uno dei sintomi, dire sempre traffico, basta, ascoltatori, uno dei sintomi di questo. Dottor Rossi, la devo lasciare, grazie. Va bene. Richiamo presto, grazie. Qualche lezione, magari mi dà qualche lezione in diretta. Allora, dove andiamo? Sempre al mio amico. Andiamo a casa. Claudio da Roma, 30 secondi, voglio sentire Claudio. Andiamo Claudio. A casa. Ecco, allora io voglio dire un paio di cose. No, allora, una veloce. Il mondo si sta rigirando. La Perché? Gente chiama per dare addosso a Diego Esposito. Ma ti rendi conto o no? Ma voglio dire, la curia, tra l'altro, dando i 250 bravo, euro, in pratica bravo, ha ammesso, a meno che non abbia voluto dire vabbè, togliti dai coglioni, ragazzi, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani, dai, 18:30. Domani ti richiamo, Claudio e tutti gli altri. Ciao. Voglio